e allora devo usare per forza almeno 50 ampere al trasformatore. Ma qual è uguale a quello che c'è Antonio? Quello già va bene, sì. Quello va benissimo, è che purtroppo lui ci aveva un cavettino separato e quindi non andava bene, hai capito? Finché non ce n'ha fatto nuovo, non ce ne sono. Ma buttare le palle, noi la mattina buttano tutto intero. con la casierina perché per sentirlo lui. No, non c'è nessuno, non ti ho chiesto che cacciere che c'era lì. Adesso guarda, c'era un tizio perché era in ferie, adesso domani mattina me lo ricordo a Violetta a vedere se riesce a buscarne uno a metterlo. Ma so che intanto non ce ne sono, perché anche da me in zona mia non vieni giù. Quelli che ci sono tutti, purtroppo li stiamo mettendo a testa in giù perché non ce ne sono. Che palle, per carità, che comune. Ehi, vabbè, se non trovo io me lo prendo a qualche paese dall'aereo, la matte, se non me la futti nuda. Non me la futti nuda, ne vuoi quella targhetta, mi arrecchio una chiesa in comune di Sassari, ci attacco il comune di Sassari e ci metto... Vai Sparviero! lo so, però purtroppo, Claudio, sai cos'è? Che non ce ne sono, perché io, te ripeto, quelli che c'erano, siete avanti, ne ho preso io, ne hanno preso altri, adesso non ce ne sono più, e quindi nulla da fare. Mi hanno detto, un bel casino, dove sei arrivato? Medico, non ti sento più giù. Non sento più Domenico, c'è un guerriero occidente anche col baracchino. Che palle, Ciao Domenico, ti ho sentito adesso, ciao. Buon viaggio, buon tutto, ci sentiamo più tardi se coincide. Ti saluta anche Mauro da Sassari, ciao. Peggio. Peggio di peggio. Se non sbaglio, sei Bartolomeo o un'impressione mia? Suggerito. Bartolomeo sei tu? Bartolomeo sono. Una domanda che sto facendo. Io non sono un Bartolomeo, io sono Claudio Sparviero da Sassari. Ah, no, perché sembrano le voci uguali. Io mi sei, vabbè, voi siete nel 10, io ci traffico poco, adesso ho detto tanto a Polo 13 non ci arrivo da qua. Adesso metto il 10 che ci sono gli amici di Sassari e detto, ma magari ci facciamo una chiacchierata nel viaggio. Ma mi sei fratello Antonio Baracuda? No, io sono il figlio di Antonio Pirino R6, non so se te lo ricordi, adesso è da tanto che non frequenta più il CB. Hai capito chi sono? Cammino, sì. Sì. Ma stavo dicendo prima che Ricordino. L'avrei capito subito. Tu sei nel palato alto? E io, almeno facevo di crescere le ciocche. E perciò tu ci pulito alla grande. E non hai problema né di lineare né di nulla, di lì. Io lineare lo attacca. Se attacco lineare non faccio altro che disturbare Sassari e basta. Va bene così, poca potenza e molta voglia di vivere. Quella sempre. Sì, no, ma infatti arrivi bene pure a Porto Torres, casa mia, ci abbiamo parlato anche. Ti sento benissimo, adesso non so, mi sembra che mi sentivi pure tu, comunque domani mi arriva il Kimball e non voglio salire molto, ma almeno a 20 passi ci posso uscire. Per il Kimball non c'è problema, questo è il 440 lo stesso, questo è il 440 fatto da me, comprato nuovo, aperto, sistemato, l'attivato, l'attaradio, ho dato tutto perché era completamente chiuso, capito? E quindi l'ho aperto io. E cosa c'aveva perché è tuo? Ho mandato da Franco a Luca per allinearlo perché era scordato, perché io l'ho preso in seconda mano, ho preso. Il 440 lo stesso, uguale al tuo. In FM non si sentiva nulla per giunta. E l'ho dato a lui e me l'ha messo a posto, mi arriva domani. Ah, da Franco Montanari, Magic Phone. Esattamente. Domani, ma me l'ha finito ieri, domani mattina, domani sera dovrei arrivare. No, io con Franco non ho mai trattato apparecchiature, diciamo, da sistemare, però qualcosa gliel'ho comprata, sono abbastanza seria, però non gli ho dato mai radio da sistemare, capito? E quindi non lo so come lavora, però già è una persona seria, va? Ok, va bene che va bene. Infatti io l'ho data a lui tramite Sandro, il produttore, che mi ha consigliato di cercare. Buonasera. Va benissimo. Allora mi sono fidato di lui e l'ho mandato a lui. Anche perché avere la radio scordata non è che funzioni alla grande. Ciao Mauro, ci sentiamo più tardi se coincide, altrimenti a domani. Guardi, quando ti arriva facciamo le prove, se hai problemi ti metti d'accordo con Sandro, salite e le diamo una sistemata, non c'è problema. Perché mi ha detto che quello di Giampaolo è fatto tu. E allora? No, quello lì è tutto molto male, però per quanto me ne ha parlato Giampaolo è stato messo male quello. Era messo male, adesso già funziona bene, cambiato un paio di trimmer che erano brutti, gli ho fatto tutto l'allineamento e poi gli ho dato un'altra potenza che non mi aveva, adesso ci ho dato da vendere con la radio, modula in AM con quasi 150 watt, quindi, e poi gli ho aperto l'LC che era chiuso, è una bella radio adesso quella, anche se c'è gli anni suoi, però funziona bene. 440 è un po' più complicato, però già arriva a questi livelli, non c'è problema. Io capito. Ma adesso che mi arriva la radio, mi arriva perfetta, anche tutta aperta, o non c'entra niente sull'allineamento, l'apertura della potenza? No, Franco sicuramente te la darà a media potenza, una cinquantina di watt, 40 watt, non di più. L'allineamento dell'LC chiuso, insomma, te la darà a strumento, quindi te la darà giusta, perfetta, però se vuoi un po' più di grinta devi farli i lavori che faccio io alle mie radio, diciamo, e a quelle degli altri anche. Ho capito, ho capito. E cosa mi costerebbe la fattura LC, così mi ha detto? Ma l'MC60 c'hai, capì? No, io uso l'MC80, è quello che ho in dotazione per il momento, quello. Ah, l'MC80 c'hai, c'è un buon microfono anche l'MC80, già funziona bene, non c'è problema. Sì, ma io se trovo sempre la uscire più, che poi è relativa alla cosa, uscire più forte, quanto mi costerebbe? Che mi costare? Non c'è mai bisogno di nessuno di noi. Ah, ho capito. E allora bisogna, adesso non lo so, me lo devi consigliare anche tu se conviene aprire o meno una cosa che mi arriva, perché adesso quando mi arriva è perfetto. Bisogna provarlo. Bisogna provarlo, bisogna lo far sentire, ti dico che su quale posizione te l'ha messo, se poi ce la vale un pochino 20 watt in più e darle qualche picco positivo, darle appena appena di LC per far sì che la radio sia a questi livelli, non c'è problema, me lo porti, te lo faccio davanti e te lo riporti via. Ah, lo fai velocemente, perciò lo fai e me ne sto andando pure? No, me lo tengo. Pensavo che te lo lasciavo e dopo la settimana ci rivedevamo. Ma no, Fernandi, già me l'ho tenuto un giorno, ma perché gli ho cambiato i trimmer che erano tutti rotti interni e quindi li ho dovuti comprare e poi cambiare, gli ho cambiato la lampadina dello Smith che non ce n'era, era tutto a rugio, mi serrario per via Hifu, e quindi se l'ho messo a posto, l'ho tenuto un giorno in più, ma il tuo te lo faccio davanti e te lo porti via. Infatti non solo l'allineamento sta facendo, ma pure un pezzo mi ha detto che ha cambiato, perché dice che era un problema, era mezzo andato per non restare a riportarlo indietro, me l'ha cambiato direttamente, basta, e poi la radio è perfetta, è questione di dire eventualmente sentiamo comunque che aprire questo vicino e così la fa. Ma però non ti preoccupare, per quello già ce lo facciamo subito, bisogna vedere quando arriva anche come messo, bisogna che la senta prima e poi ti dico c'è questo da fare o questo è già fatto, va bene così, non c'è nessun problema, prima dobbiamo sentirla come modula, capito Gabi? Ho capito, perciò tu te ne accorgi già se ci mettiamo a chiacchierare su WhatsApp e diamo lo so. Alla grande, 20 anni chiuso questa radio, io non ne ho problemi. Sì, allora domani ti giuro che ci sentiamo, se vedo che mi arriva domani. Io non ero comprato, ma ti fa sentire in serata, sul 12. E vediamo com'è la situazione. Se lo sento bene, che gira bene, ti dico lascialo così. Se c'è qualcosa che non va, te lo dico, sali con Sandro e te lo faccio avanti e te lo porti via, capito? Non c'è problema, ma tu stai sul 10 o sul 12? Io sto sul 10 canale di Sassari, però se me devo spostare al 12 non c'è nessun problema. Ma noi abbiamo un calcino, il parcheggio non se ne trova, eh? Ma c'è sei? Sì, ah. Qui? Lascia perdere, non vedo in direzione, che faccio le contravenzioni, devo sempre andare a marciapiede, capito? Non volevo mai trasferirmi di nuovo qua a casa, che c'ho garage e posto alto, quindi non c'è problema. Sì, sono incasinato, non so dove cacchio metterla, non so dove cacchio. Ah, sì, accessori. No, non c'è un piazzale grande, non lo metto al piano, no, dalla strada finché mi tratta, di non per dove sto maturo. Anche secondo me, sì, da sotto si è entrato. Via. Secondo me era un buco in chissà piazza. fatto, non ve ne uno, uno che ce l'è per fatto atterrare. Ehi, aspetta, qualcuno già esce da qui, a quest'ora. Oh, vabbè, che sono le 10, se sono tutti rientrati a casa, quelli di Corallo lì parcheggiano tutti lì in piazza Corona Mariana, capito? Perché dalle 8 in poi non si paga e quindi lo ritirano domani mattina alle 9 la macchina. Altrettanto buon carico e ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao Gabri, ciao. Ma il colore di cui ci aveva portato, che fine ha fatto? La sto usando, adesso questa qua è quella che c'aveva Pablo, la sto usando in macchina. E poi le connex a casa fisse. Ah, ascolta, la macchina lo stai usando con vecchio che c'aveva portato? E il mio, l'Alan Midland, Alan 48 da te. Già funziona bene, già funziona bene, da solito. Manco male che c'è un appello a quello che è il babbo. Ehi, adesso questa qua è vecchiotto, eh. È un po' il tempo, Già... Sta sempre andando, non state che era fermo, sta sempre andando. E il cazzo che l'ho fermato 6 anni e non va più. Oh, non va più. Anche quello già si può mettere a posto, ciao dopo. Dai, vado a cenare e ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ciao, Gabri, ciao, ciao, Antonio, ci sentiamo dopo, se coincide, allora, mi hanno già chiamato. Io, ciao, Clavo, c'era, allora, ci sentiamo dopo, allora. Saluto via, Labu, l'amico che c'è con te, non ho capito chi sia. Gavino, è il produttore, Gavino, è a Sassari per le Quarrelle, e quindi stavamo parlando. Tornate dai tiranti. Sì, due mesi, due, non c'è problema per quello. Due tirati già mi vanno bene per il momento. Poi, adesso in questi giorni faccio il fuori e trasferisco tutto da nuovo mese a come si deve. Ti guardo su, quelli sono quelli che sono avanzati a me, ma su c'è una roba che sono troppo. Un'altra mattassa da 15-20 metri. Quindi se vuoi, metti tutto a posto e poi tiro gli altri e glieli leghi, capito? E intanto devo cambiare il cubo là, perché sono per attingere un cubo assieme all'altro, se la bicchiere del tubo telescopico, capito? Quindi no, non mi sono fidato. Adesso devo trovare scendo in campagna, prendo le misure del palo che mi serve e prendo un pezzo da un pollice, un pezzo da un pollice un quarto, faccio un tipo telescopico, faccio il fuori, così pronto a portarmelo qua, me lo metto in macchina, faccio spezzatura da 2 metri. Così me lo salgo direttamente qua a casa, una volta che le cose sono pronte, non faccio altro che comprarmi questi tasselli, faccio il fuori, tassello chimico e via. Che appare legittimo, ma cosa fa che ne stavi portando? Ehi, c'avevo Scooby giù. Mi si mette lì e ti rinvia da abbasso dalla parte dove ha fatto quel caseggiato scarpa, tu vedi? È positivo, Scooby va sempre lì a fare la pettina, il cocco, c'ero io. Ehi, non stavo rientrando che ero al supermercato e ti ho visto di sfuggita. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, Antonella. La radio va bene così, la mia, la lascio stare così, quella 4:40. E a voi, Bene, perfetto. Adesso appena lì stiamo terminando quella da Giuseppe, ti do le 70 cose meno sistemi. Di fare una bella formulazione, però fai come si deve almeno. Poi ti volevo dire, guarda che in quel palazzo che c'è di fronte all'Ener, che stanno finendo, lui apre lo spia adesso, ci sarà un casino per aprire cosa è da tra i supermercati a distanza di 10-20 metri uno dall'altro. Io non ho visto quello da frutta con due che devono aprire loro spilli, mamma mia ragazzi. Già finisce diceva prima la banca cos'è dove c'è l'esso, c'è quello, poi c'è la curva che vabbè coso ha chiuso, c'è l'altro più su, grazie a Dio, ho detto prima dei supermercati, e vabbè, pazienza. Va bene Antonio, quando vuoi, trovate l'altro giorno, quando me lo vuoi portare non c'è problema, lo facciamo assieme, te lo porti via. Ti do un po' di più di LC, una modulazione un po' più a tonalità, perché c'è molti bassi quel microfono, quindi bisogna cercare di correggerlo dall'interno, come ho fatto a quello di Giampaolo. Tanto vatte ne ha un becco la radio, mi ricordo che di vatte già ne ha, però le possiamo dare qualche picco di modulazione un po' più tenero. Quando vuoi sono qua. Non c'è problema. Dai, vado a mangiare e ci sentiamo dopo. Non c'è problema. Certo che lo smetto. Vai, devi andare in vai. Vai, tutto grosso. Lampadario. Mario. vicino è? Sandro. Sì, non mi hai riconosciuto chi sono, Sandrino. E non ci lasciamo me. Conosciuto, ciao Giuseppe. Ma forse c'è qualcuno che non sta uscendo? Oh, noto. C'è una portante che è mezzo fuori frequenza. Guardate chi è. È sparito, Cazzo, è sparito il QRM, cazzo. Guarda, se dura così, abbiamo fatto 13. 13, signori. Fatto 13, Sandro. Siamo anche noi. Ehi, San Giuseppe, li possiamo giocare quanto vogliamo, ma se la ruota non gira. Sandrino, se non gira veramente la ruota qua. In effetti Gianni ha detto che non salta il parole, lavoro che finisca. Io il mio piccolo orticello me lo sto coltivando. Fai bene, sa. Se non ce ne sappiamo noi. Ciao, ci sentiamo alle prossime sa. E ti sento basso. E un bel basso. Il nome di segnale. No, non ho sentito né vista, grazie a Dio ancora. Ehi, pazienza, vuol dire che ci vuole più o in meno. Ci dovrebbe essere Luca, se c'è ancora, non lo so, Luca, avanti. Perché la percentuale non mi torna, 20 watt e 150 motori. picco picco sono truppi. Non voglio dire trasmettendo in mano laterale, ma vedere dove cazzo c'è con lo strumento. E capa, ok. Capa. E adesso stiamo guardando come il fondo, però ci sono i pescherici passeggiati. Ma noi ci hanno pagato il posteggio. Claudio, c'è il fermo biologico, cioè che mi ricordo, sono i pescherici passeggiati, non si può andare quando andavamo, ti ricordo che ce ne volesse più. Già, l'ha detto Gesù, l'ha detto dove lo toccato barcheggiato, lì si dite per l'Italia, ormeggiati. E ormeggiati, ah, mi ha fatto un po' pomeriggio. Ah, io sono fatto. Diciamo, questo è sempre un po' biologico per quello, dove andavo a lanciare io per prendere le scimmie, c'è proprio lo pescheggio TT1454. E sarà sempre quello che mi darebbe gli altri anni già. Evidentemente quello c'è l'ormeggio lì. Ti ricordi che stavamo pescando ed era entrato, si era tutto ormeggiato davanti a noi, ma avevo fatto dare qualche sardina. Mangiare, tuia, beh, che si dice, che si dice. Okay. come si dice? Anche io mi finito il cenare. Un pochino di radio e poi a domani. A domani. Si viaggia, si viaggia. Ma tu sei proprio sì, no? Ah, sono fermo in questo periodo per questo problemino. Più di un mese fermo. Olga, sono un po' che non vado. Oh, comunque qua, non sono abituato a sentirti così basso, eh? Vabbè, colpa mia, ma anche in altre situazioni si sentivo sempre alta. Bisogna fare qualche cosa. Ma lo devi fare tu, non io. Io arrivo bene, allora anche al monte. Il mio segnale lì è 9:30. Quindi il problema è il tuo, caro mio, è il tuo. No, qua si sentivo 7-8, non di più. Sicuramente sono anche io così lì. 5-6. No, sì, vabbè, certo il problema è mio, andiamo in plastica. Anche fin troppo. Ma però vedi, in 15 metri a 21-3-10 stasera mi sono fatto il Mar Nero. La costa settentrionale sarebbe la Russia del Russia. È forte, ha funzionato veramente bene. Ma è normale, ma si sa che qua non arrivi e poi mai il mondo. Tu lo sai come me, lo sai come me, purtroppo non te nel cuore. Io per anni andavo in bando amatoriale con ogni 5 RV, sì, segnali 9-10, io li ricevevo 7-8. Adesso quando c'ho quarantenna che tu ben conosci, che avete fatto assieme a Marco, che fa 10, 15, 20, 40, ce li ho tutti a 9:30, ho girato il mondo. In 3 mesi ho spedito più di 450 QSL, tutti a log, ma QSL però, tanto che qualcuno mancava anche a Marco, immaginate tu, veramente tantissimi, molto molto interessanti. È sempre amplificatore, se lo sono amplificatore non ci sto più entrando. Eia. Ah, vabbè, poi quando lì la posizione che sei tu lì, anche a prezzo di ferro, ha voglia a ricevere. Ma sai cos'è? Che con i poli, quello che c'è l'altro lì c'è l'altro, che tu ben conosci, quello a rate verticali, quello lì, che è lungo 50 metri. Alto 40 metri in altezza, ma sotto c'è tutto il piano in alluminio, capito? Perché il mio terrazzo è rivestito in alluminio, quindi c'è un piano di massa allucinante. Quando vado in 40 metri con 100 watt mi danno segnali 9,20, 9,20, 9,30, dipende. Dalla preparazione la radio è strepitosa, me l'ha regolata Marco, ha fatto tutto il set del 9,50, è favoloso. Infatti mi dicono che antenna c'ho, ma mi dicono che c'ho un bipolo 10, 15, 20 e 40, che poi credo che sia un bipolo, come si chiama, full side quello. Ma sarà quell'altro, il multibanda, è un quarto d'onda 40, 20 e 10, mi pare che l'avevamo fatto. Sarà quello lì che avevamo fatto insieme a lui. È il bipolo multibanda. Non volevo capire come è fatto, io dico sempre che non è a V invertito, è in orizzontale, lungo 50 metri, e vogliono tutti capire come è fatto. È strepitoso quel dipolo, veramente è strepitoso. Poi è agganciato da una parte all'altra del palazzo, è tirato su circa 6 metri, con due pali proprio che lo mantengono da circa 6 metri, e poi c'è un palo centrale in alluminio che mantiene il ballon, capito? Ehi, no, me l'ho costruito anche lì a casa dei miei. Si è fatto 40, 20 e 10 e poi un dipolo sempre quanto non per gli 80 perché c'hanno terreno, perciò sono riuscito a stenderlo. E quando sono poi in alto rendono, capito? Io qua ho la possibilità di avere 10 palazzine tutti uniti. E si mette a stendere da una parte all'altra, mi faccio il dipolo un'intera qua per gli 80. Io ce l'ho un'intera per gli 80, solo che non ho quando ero all'ultimo piano. Ce l'avevo. Adesso qua ho montato quello essenziale, questo, 10, 15, 20 e 40. Mi mancano solo 80 metri, cioè 6 metri. E poi le vuoi lì. Dovete. Mi manca solo gli 80 metri, ma già lo piazziamo, non c'è problema. Inizialmente appena posso mi voglio mettere la canonapesca multibanda con l'accordatore remontato, quello come ce l'avevo di là, e quello mi fa da 160 fino ai 10 metri e l'ho già provato e funziona benissimo. Poi c'ho il dipolo trafalato 40 e 80 che va alla grande, e poi mi metterò, mi metto la Sirio per, no non la Sirio, la Ringo per i primi 10 metri. E poi l'ex 7000 e la 5000. Poi se ce la faccio il discone, questo come primo step. Poi mi rifaccio tutti i delta loop, mi faccio per ogni banda, come ce l'avevo di là. E guarda, le delta loop sono le migliori perché sono così cupitate, non hanno rumore, non risentono del piano di terra, perché puoi mettere anche passi e che vanno. E poi hanno una resa allucinante, hanno ormai 3,5-4 rispetto al dipolo. Io di là dove stavo prima, che ero in un buco circondato da tutto e da tutti, mi ricordo in 17 metri ho fatto il percorso tranquillamente, ma arrivava che era meraviglia. Io ho fatto la mia salita in 20 metri io con questa antenna, ma country allucinati, accendo l'obbligo, si accendo il computer, dopo te li dico, ma veramente molto interessante. Infatti l'ha venuto Marco, perché mi aveva fatto il programma, quello log, e poi Marco me l'aveva un po' sistemato, poi c'erano delle cose che non mi piacevano, ma c'è veramente un log strepitoso. Ancora ne ho altri 200 da spedire di QSL, lo sto aspettando che arrivino gli altri. Io ho già mandato via sezione, capito? Non è che sia una grande appassionato di Expo, quando mi ci metto in giro due mesi pieni, ho fatto un sacco di collegamenti, un sacco, e poi mi ero stufato, da quando c'ho 9,50, mi ero stufato. Gappa. Gianni, come ci siete? Sei un po'. Io sono entrato. E oggi? C'è Massimiliano, Luca. Io, Luca, Massimiliano, tu, Gianni e Giuseppe sono produttori che stanno guardando la come si chiama il punto per pescare. Non capisco qualche portafoglio, se li va bene. Qualche portafoglio? No, no, lui si vanno in pizzeria stanotte, altro che pescare bubbie. Siamo tutti lì al porto al buio, non ce li inculano tutte e due. Massimo, sei basso, cosa hai combinato? Vorrei dire, a prendere il portafoglio? No, prendo calamari che non prendo qualche troppo. Ah, voglia. Massimo, via. Ehi, siamo andato a casa, cosa hai combinato? Ecco, ho messo un filo nello stenditoio e ho accordato lo stenditoio con le magliettine bagnate. Ah, per quello sei così basso. Già va bene. A voglia che già ne hai, e a me con due scuote di segnale. Bene. 7, radio 4. Colpa mia, perché se vedo con lo stenditore adesso aggiungo qualche altra maglietta bagnata, magari riesce un po' a ricevere un po' meglio. Ah, ok. Tu sei 9,5 qua, quasi 9,10. Vabbè, però è stato anche inserito, quindi sei 8,5. Avanti Antonio, fiaschetto qui c'è tanto la verotta che è entrato. Sì, dai, sono andato a salutarmi. Se la salutare come fa nella mamma, se la tolga tutta la ruota, se adesso ti avvanga. Come mai se credono già subito? Ma mi sto stando a sdangolos. Guarda, cavolo, non c'è problema. Buonasera, Grotte. Buonasera a tutti. Scusate l'entrata, ma sono in querrizza e si parlava di portafoglie di Cularello e la cosa mi ha spiegato, capito? Curioso sei diventato? Ciao Antonio Falchetto, ciao Antonio Gold, buonasera a tutti e due, ben ascoltato. Oh, e diciamo ricordo Massimiliano Antone che avevi giù in via Pascoli, che c'erano anche quelle full side che avevi, molto belle. E anch'io perché oggi mamma mia che giornata che per carità il mio, e domani c'è Bubu la ragione che abbiamo ancora in ferie. Però mi copre giovedì mattina perché non ci sono, giovedì mattina non ci sono e quindi va lui a fare il mio lavoro e poi lo coprirò domenica mattina faccio un salto io, ma che sono a riposo, c'è un biglietto che volevo fare, ma domani mi serve per forza, cioè giovedì mi serve per forza libero, KK. Lascia vedere. Come è il segnale? No, è molto più basso da me, Antone. Massimiliano, è 7, Santiago 7. Evidentemente lo prendi più tu di me. Da me qua è più coperto, non so. Quanto sto arrivando io? 5, 6, quanto sto arrivando? Fai 6 con picchi di 7. 50 watt. Poi se abbasso a 20 watt, 5 così. Ma se mi ha, si batta un'altra cosa, vabbè, sono anche due carbonazze che c'è una differenza strana con Claudio. Io avevo 7, lui arriva 5, quasi 7, vabbè, io ho 54 ciò. Quindi, Claudio aveva 52 secondi fa, poi si sono 20. Cappa, buona volta qua, ci ascoltiamo. Ciao, Bubu. Ciao, ci vediamo. Ci si ascolta, buona volta a tutti. Ciao Marco, ci sentiamo le prossime. Antonio. Ciao Fabrizio da questa parte, fai il favore per cui ti ricordi la mia modulazione, il mio segnale, se ti sembra che abbia migliorato o peggiorato? No, sempre lo stesso. Allora va bene, dai. Allora va bene, ok, buonanotte, buon 144, quello che devi fare, buon trabacco per domani, alle prossimine. Avanti Antonè. C'è la cosa, poco fa, prima di chiedere tu, prima di chiedere... Le parametri mi sembra, non ti qua. No, ma io volevo chiedere il parametro. Ho detto solo che per me non è un lavoro fatto bene da 20 watt a 150 di picco. Perché i parametri del 440 devono andare dal 25% in poi. Quindi da 20 watt l'importante come la mia deve modulare a 40-45. Da 50 a 100 e da 60 a 120, perlomeno io ho detto così mi hanno scritto, così ho fatto, mi sembra troppo eccessiva questa cosa, Fabrizio, non lo so, tu l'hai fatta e te la vedi la tua, quindi va bene così, io sono andato da 20 in 20. Mi sembra troppo, 20 watt di portante, 150 modulati. Che poi i watt sono sempre quelli, il picco che gli ho dato troppo alto secondo me. Vabbè, aspetta, adesso vediamo un attimino. E pertanto non è che puoi fare... Adesso, aspetta che... Ecco. adesso sono 40, sale picchi di 100, poi quando se picco, adesso penso che tengo la voce, se tengo la voce così 100 e poi va a picchi anche 130, 150, 130, diciamo che dai picchi sono dai 100, 120, 130, ma quello non è c'è una regolazione che tu fai all'interno, non è che puoi stare lì, o abbassi o porti in alto e devi giochi un po' con le licine, infatti credo che sia aumentata anche un attimino di radio, dovrebbe essere aumentata, perché la modulazione comunque devi avere il 100% della portante modulata, la regola sulle due bande laterali, e 400 il doppio, il quadruplo sulle bande laterali, poi ne usino tutta la storia, no? della moltiplicazione che ti dà la cosa. E quindi ovviamente come aumenti questa spinge, in AM è così purtroppo, questa spinge, non credo che, io ho guardato tutto quanto il circuito, stavo guardando un attimino dalla scheda tecnica, altre cose da toccare non è che ce ne sono. Ma non è che mi devi come spiegazioni, io per 20 anni che uso il 440 di Switchano che l'hai tirato troppo, poi era tua, vedi tu, devi andare metà per metà, se sono 50 di portante deve andare di modulazione a 100, il fatto che tu da 40 watt di portante vai a 150 non va bene per me. Poi il lavoro che hai fatto può essere fatto bene o fatto male, però io non è il lavoro che faccio. È 20 anni che lo uso, è 20 anni io li ho sempre modificati così perché mi hanno insegnato così. E chi me l'ha insegnato, stai pur certo che è un maestro, tutto quello che si legge per me è solo noia. Io vado a pratica, non a lettura. Quindi per me l'hai tirato troppo. Io questo l'ho fatto. L'RG, la modulazione è sempre la stessa, noto solo una tonalità diversa e bassa, poi per il resto io sono a 20 watt di portante e sto modulando a 40-45, poi se lo metto a 50 va a 100, se lo metto a 60 va a 120, basta, non mi allungo più di quello perché il problema poi sussiste in banda laterale, sussiste nel scaldare il finale, sussiste in tantissime cose. Poi il 440 io lo faccio a pezzi, lo ripiazzo, non ci sono problemi per quello, però il lavoro che a me mi hanno insegnato è quello di andare di 20-20, 25-25, non di più perché altrimenti rischi troppo. Un'altra cosa è l'altro che sta arrivando, che c'è lo stadio finale a MOSFET, e quello modula a 200 watt. In AM 200 watt, in FM 200 watt, in SSB, però c'è lo stadio finale che è fatto così, forzare uno stadio finale a 150 watt, 170 watt in AM, non lo so, vedi tu, io al mio non lo faccio così. Vabbè, ovviamente, ma anche già tu quando lo tocchi stai creando problemi, perché tu qualsiasi apparecchio, lui dalla scheda tecnica va tarata a 90 watt, esagerando 110, ma è perché? Perché lui è dato che lo puoi lasciare ore e ore in trasmissione senza creare nessun problema, quindi non è solo per quel motivo, ma se tu lo tiri su, certo che non lo puoi, adesso perché io sto uscendo, adesso lo vedo da qua, sono 30, 40, adesso sono sotto 30, 40, sotto i 100 watt, se poi ovviamente spingo con la mia modulazione, perché un po' guardate, io ho la voce grossa, allora se spingo in alcuni punti la lancetta la sbatte su, quindi siamo nei limiti di quello che deve andare di un apparecchio che gli stai tirando un po' il collo ovviamente, e quindi il rischio c'è sempre, una volta che tu tocchi i parametri della casa stai sempre correndo il rischio. Ti ripeto, se lo tieni ore in trasmissione, allora quello è ovvio che non gli fai, non è che gli tiri il collo così, ma nel momento che tu gli metti 40 watt di portante, poi tutti gli altri sono modulati, comunque sono picchi, un conto se io te lo porto a 150 watt e poi inizia a modulare, allora lì sì che te la rischi, però lì c'è il carrier, no? Tu come qualsiasi, come quando io l'altra macchina che hai fatto le centraline, fa le cose, quando modifichi un qualcosa ovviamente la usi in una certa maniera, certo non è cosa, Fabi. Io ti ripeto, lavoro sempre sul margine minimo, perché sfruttare troppo il massimo non va bene. Non va bene. Io, perlomeno le mie, le ho sempre fatte così, a meno che non abbia finale a mostrate come quella che c'è Sandro. Allora, un altro discorso, quella da 200 watt, le va tutti senza nessuna modifica, perché lì non è stato fatto niente, non è stato tirato niente, è proprio la storia finale, che sono due accoppiati da 100 watt, quindi eroga 200 watt da tutte le parti, però. Da tutte le parti, ho provato quanto tira di picco in banda laterale quella radio adesso. Secondo me esci fuori dal normale, è in banda laterale, che c'è proprio il picco di modulazione diretto, secondo me è troppo, non so. In FM, da tutte le parti l'hai provata, solo una M l'hai fatta. Sì, ho provato in FM perché infatti più tardi volevo scendere sotto e fare alcune prove. Poi possiamo spostarci se in banda laterale la proviamo. Ma come ti ripeto, questa qua è stato modificato il car, quindi il car, come si chiama, il dio è stato tagliato, quindi non c'è nessun problema, io la potenza la regolo. E quello che ti volevo dire, è ovvio che una radio del quando tu gli tocchi un po' la tua, non è che ti puoi permettere di metterla a 120 e continuare a modulare per ore, che tanto la fotti sicuramente. E ovviamente la usi in una certa maniera, se ti serve potenza gliene dai 120, 130, 140, gli posso anche dare, ma quando ne faccio un po' di passaggi e poi spengo e abbasso. Però se voglio, infatti avete accantato, ho aumentato di tutto. Se io, come ti ripeto, come la tieni sempre 20, 30, 40 watt, e poi gli altri vanno immodulati, mi dà un 30 watt, 40 watt più di prima in picchi modulati. Però ti ripeto, quello che mi sembra strano è che io, importante fissa, riesco a farla salire. Adesso io qui non posso fare la regolazione, adesso ce l'ho in camera, non ho voglia di attaccarlo, avevo autocostruito una bella macchina, avevo fatto come c'è il rosmetro, wattmetro, carico fittizio e tutto, un giorno te lo faccio vedere, anzi la volevo portare da te per provarlo con qualcosa di più serio, un paio di apparecchi lì, l'avevo costruito tanti anni fa, e lo volevo attaccare per vedere quanti watt esattamente mi dava, perché io tirando su salgo oltre 150, continuo a salire, solo importante modulata. Io ho qualche modifica, l'avevo fatta fare, infatti lì c'è il bollino di Bianconi che ti dicevo, ma non mi ricordo, come fai a ricordarti 12 anni fa, 13 anni fa, non mi ricordo quello che ho fatto ieri. Potrebbe essere che magari sono anche stati sostituiti questi cosi, perché mi sembra strano che se io sono importante fissa riesco a farla salire a 150 e continua a salire, va a fondo scala, quello sta ancora salendo, e poi siccome non so se vedi come c'è lavorato dentro, ci sono alcune tarature per farla andare in picchi positivi e picchi negativi, quello che stavo provando oggi, no? Che ti dicevo. E poi riesco anche a fargli dare i picchi positivi dopo che lì è oltre i 150, quindi quanto sarà? Cioè, mi sembra, quello che ti dicevo, mi sembra strano che questi finali possano erogare così tanto. Non lo so. Io ho provato a tirare lo stesso a 150 watt di portante, però poi è andata in protezione. Se quella non va in protezione vuol dire che è stata fatta qualche modifica. La mia va in protezione a 350 watt di portante, forse perché è nuova, non lo so, non è mai stata toccata a nessuno, me la sono fatta io a piacere mio, quindi avere 100 watt in AM già va benissimo, è come che c'è il mini letto, quindi perché sfruttare la radio e far sì che scoppi. Il 430 è più sensibile, il 430 c'è un finale più grosso, ecco perché sicuramente abbandonerò il 440 e userò il 430, ma anche come modulazione è totalmente diversa, è molto più forte, c'è delle cose in più all'interno. Al 430 ha solo le memorie in meno e basta, per il resto è superiore come radio. È nata prima con un circuito molto più resistente, con la storia finale più grosso, con i filtri gli schemi della, del 4.30, no? Perché volevo vedere. Sotto alcuni di adesso non l'ho mai aperto uno, però ha dei sistemi sul mixer che sono superiori al 4.40 di smistamento. Alcune cose che qualche cosa in più ce l'ha il 4.40, poi magari come dici tu per esperienza che le usate sicuramente il 4.30 va anche meglio, però sulla carta guardando gli schemi elettrici funzionali c'è qualcosa in più del 4.40, quindi poi probabilmente magari va anche meglio, e per carità, quella è l'esperienza, però sulla carta è un po' più evoluto il 4.40. Buonasera. Ciao, sono il 4.40 con 4 conversioni, 4.30 3 conversioni, che ho sulla carta è più da leggere, ma esteticamente ho provato che il 4.30 sia l'eccezione che in trasmissione superiore. Questo te lo dico con molta certezza, perché io ce li ho tutti e due da 20 anni e quindi sono due macchine completamente diverse, ma il 4.30 è l'eccezione. Non ha niente a che fare con il 4.40, non senti frusci, quello è molto molto inferiore ai filtri, c'è un filtro noce che è allucinante, ti chiude completamente tutta la banda passante, no? Qua cazzo inserisci l'NB al 4.40, non serve un cazzo, no? Lascia perdere. Infatti molti radioamatori continuano ad usare il 4.30 come dice il trasmettitore perché ha una superiorità in trasmissione e in ricezione. Guarda, io al 4.30 l'ho fatto lo stesso lavoro, ma uguale, preciso, indico al 4.40. Con la T250, quello sì, quello eroga 150 watt di portante e picchia ancora 160-170, il 4.40 no. Ma quello l'ho fatto perché la ventola si accendeva a 70, 65, 70, ma gente che la ventola del 4.40 si accende a 40 gradi, quindi 40, 45 non. Perciò è completamente diverso il sistema operativo. Ciao Sandro, buonasera avanti. Buonasera, ciao Flavio. Buonasera Fabrizio. Ok, no, stavo ascoltando il discorso, va bene. Carlo, mi hai chiamato Carlo, mi ha detto che c'è un particolare su quell'apparato, però te ne parlo in verticale, tutto lì. Vabbè, non mi occupo il telefono, non mi lascio così, che particolare di resistente, transistor, che croce? Dico una cosa, sai mica se a quella radio ti è arrivato qualche fulmine, qualcosa? No, negativo. Lui dice di no, lui dice di no. Lui dice di no, ma io continuo a ribadire di sì. Allora, c'è una scheda completamente carbonizzata. Su questo mi sembra che l'avevo già detto. Io ho visto una scheda completamente carbonizzata, però lui dice che non è entrato nessun fulmine, quindi sicuramente è qualche sbatto di tensione. Domanda, ne vale la pena ripararla? Lui adesso ha notato, diciamo, questa scheda completamente nulla, perché in effetti è nulla. Perché lui ha detto che si sta cambiando il componente, ok, si cambia il componente sulla scheda, ma è completamente la scheda da sostituire, perché avendone subito la scheda ne hanno subito anche i componenti. In questo caso lui deve andare alla ricerca di un'altra scheda che mi ha detto che non è un problema sostituire la scheda completamente. Il problema è, diciamo, che sostituendo la scheda lui deve fare totalmente la radio. Questo lo so, Sandro, lo so che una volta che cambi la scheda madre come computer devi fare tutta la configurazione della radio. E io sempre la stessa domanda ti faccio, ne vale la pena farla? Tu devi fare il telefono come che sia la tua, devi dire a Carlo, ne vale la pena farla, quanto mi costa fare questo lavoro? Punto di domanda. domanda. Poi quando tu mi dai la risposta, io ti dico se farla o no, perché giustamente c'è un budget da rispettare e quindi in questo momento non so cosa dirti. Se tu non mi dai notizie più consistenti, io so che ho la volontà di farla, perché non ho problemi. Lo conosco perfettamente come nome e come fama, però se questa scheda costa X e tutta la configurazione della radio, quindi esce una radio nuova, perché nuova è quella radio fisicamente, poi internamente purtroppo è successo un danno, è come quando uno si sbatte al muro, ma sicuramente ne varrà la pena, perché mettere la scheda nuova, rifare la configurazione della radio, che è una cosa abbastanza facile per lui, se costa tot si può fare, se costa X bisogna che lo sappiamo. Sì, vabbè, ma allora io ormai non lo conosco benissimo, lui, almeno conoscendolo, lui mi ha messo l'ordine e mi ha detto andare avanti, però toccarlo. Renditi conto che quell'apparato, diciamo, è un signor apparato. Il costo commerciale è X. Logicamente se supera il costo X della messa in opera di tutto funzionante perfettamente allineato dell'apparato, se lo supera, allora insomma non so fino a quanto ne vuole la candela. Allora non è per questo, poi perfetto, io allora vedo un po', le piazzo già una scheda, perché lui c'era già la scheda, stiamo piazzando la scheda, se lo tiene sotto, lo vedo un progettino, se non ci sono problemi la spesa è minima, se rappresenta problemi allora lì diventa un po' complicato, comunque mi avvisa, capito? Già passando il gentilissimo, tu fai andare avanti sino a quando lui non fa sì che la radio torni alla normalità, se poi c'è qualcosa in più da fare, da vedere, che ci faccia sapere, insomma che ti faccia sapere e tu me lo dici. Per il momento farò andare avanti, la scheda va messa a nuova, dopodiché messa la scheda si vedrà se c'è qualche altra anomalia, io spero di no, perché di altre cose non me ne ha parlato la radio. Io ho visto che quando me l'ha portata praticamente non andava in da 26 a 28, poi per il resto era perfettamente funzionante, quindi non so, poi l'ho lasciata fuori, ma si è spento tutto, non accendeva neanche il display e niente, quindi a un certo punto ho detto ti ho chiamato e quindi l'abbiamo spedita. Va bene, farò andare avanti e poi tieniti in contatto con lui e fammi sapere. Il budget disponibile è giustamente come hai detto tu, che non sia superiore al costo della radio, se poi siamo lì per lì, insomma, le 300 euro si possono spendere su quella radio, perché torna nuova, esteticamente è nuova, fiammante, e quindi a quel punto se non la ritira me la tengo e a dicembre le porto tutte e due questa che sto trasmettendo e quella lì le porto in fiera e compro una radio nuova, non me ne fotte niente. No, per quello non c'è problema, ma diciamo lo conosco abbastanza bene, abbastanza preciso, infatti lui ogni mossa che fa prima di andare avanti sempre mi ha messo sempre all'ordine, quindi diciamo è sempre diciamo al chiaro di luce, tutto di comunque. Le maestro aveva già provato la scheda l'ha piazzata, l'ha provata per verificare diciamo che cosa, l'apparato è già acceso, è già illuminato, quindi è già un buon segno, quindi la vecchia scheda in effetti era, diciamo, comportava l'annullamento, quindi lui ha già piazzato la scheda, dice che si è acceso, comunque lui lo sta tenendo sotto controllo. Se i prossimi giorni, se riesce in settimana, fine settimana, mi fa sapere, se no la prossima mi fa sapere il tutto. Ok, ti ringrazio. Va benissimo, in ogni caso, ripeto, ribadisco, quella radio è da fare perché è troppo nuova e quindi niente, è da fare e basta. Quindi farlo andare avanti e poi ci farà sapere se i costi insomma sono eccessivi o meno. In ogni caso te l'ho detto, se lui non la ritira, me la ritiro io e dopodiché a dicembre metto tutto dentro il trolley, questa che sto trasmettendo, quella, gli altri 240, mi tengo solo la linea del 430 e compro una radio consistente, grande, che non mi dia problemi perché le cable mi sono già rotto le balle. Tanto anche questa che è nuova, mai cagata a nessuno, comprata nuova diciamo, ma sono convinto che fra qualche anno stiamo riparlando nuovamente dello stesso problema e quindi mi sono rotto le balle di continuare a buttare soldi su queste radio che non servono un cazzo. Tutto qua, questo è il tutto. Ok, c'è Fabrizio, c'è Antonello, c'è Facchetto in Corrix, poi c'è Gianni Giuseppe, dovrebbero essere a Porto Torres. Avanti Fabrizio per Sandro. Ok, dai, riprendo io. Ciao Sandro, ben sentito. Niente, ci sono io, Claudio, come diceva Falchetto, credo che sia andato in Corretti perché mi sembra a letto o qualcosa del genere, mi sembra di aver sentito. Riprendi Sandro e dammi un controllino anche tu, perché come hai sentito stavo facendo un po' di modifiche qua e quindi per vedere come mi ascolti avanti. Se poi ti ricordi qual era la mia modulazione prima, il mio segnale e tutto. Posso dire che diciamo qualche giorno dietro, qualche settimana dietro che ti ho sentito meglio. Il segnale diciamo è sempre quello, diciamo Santiago di Nove con leggeri picchi positivi a dopo compressa modulazione, ragione. Modulazione a dietro, per come ti ho sentito qualche giorno dietro, era molto molto più bella chiara, più bella grintosa. Questa modulazione sale in asino, capito? Adesso non so se il timbro di voce tuo o no. Ok, allora aspetta, infatti quello che volevo dire è probabilmente provo un attimino a recuperare il bicchiere che deve essere troppo. Allora aspetta, così la passiamo un pochettino, che anche secondo me è un po' troppo alta, allora eccolo qua. Allora, 1, 2, 3, prova microfono, prova microfono. Ecco, forse così va meglio, guarda un attimino. Ma diciamo che ha chiarificato qualcosina, ma non più di tanto. Sandro, attenzione Sandro. Avanti chi è? Ma il grosso è ben sentito, ben ascoltato. Buonasera, ciao Antonio. Buonasera, ben ascoltato anche da questa parte. Una mesa se la guardi con un occhio solo, fregatura che ho avuto. Sono cerca di un 440. Tu come sei messo? Io ce l'ho, però rimane qua per il momento. Però accetti offerte quantomeno. 100 euro Sandro. Aspetta, accetti offerte? No, non ti ho capito. Accetti offerte, se quantomeno tu non lo vuoi dare assolutamente, questo l'ho capito assolutamente, il rispetto ci mancherebbe la tua decisione. Però io ti faccio un'offerta, dopodiché tu la metti nel cassetto, un domani ti vuoi aprire quel cassetto e vedere quell'offerta è sempre valida. Dunque, in questo momento le offerte potrebbero essere tutte appetibili, diciamo, però diciamo, siccome conosco il prodotto, siccome l'ho già testato, l'ho già appurato, trova le condizioni in cui si trova, al momento mi si possono aprire 1000 euro, però non lo so. La mia offerta è BV2001ZG da 700 watt più conguaglio. No, non mi interessa. Senz'altro, mettila nel cassetto oppure mettila nel cestino. Ok, grazie per l'offerta, però non mi interessa. Ok, replica. Vabbè, io sono passato con 430. Thank you. benissimo, io matto per anni, però è giusto che ci sia un divorzio, perché mi sono preoccupato, una macchina molto molto delicata, una macchina che darà sempre sempre problemi, fino a quando funziona bene, funziona bene. Quando inizia a avere problemi, mentre pasticciarci dentro, stare lì a toccare e fare, perché non è per di piedi, bisogna mandarla al centro assistenza Carlo Bianconi, perché vedete non sta più facendo niente, ci vuole pagato perché fa il lavoro fatto bene, però basta, cioè una macchina che costa 400 euro usata, ce ne metti 350 sopra, quanto cazzo la devi vendere? Ma stiamo scherzando, no? Faccio un business, tutte via, tutte, 140, 2, 4, 40, 380. E compro una macchina nuova, F950 ce l'ho sicuramente, sicuramente. Andrò, Sandro, tu sai qual è il mio sogno, andrò a prendere il Mark 5 e non si discute per nessuno. Con quella macchina io sono arrivato, posso tranquillamente ritirarmi anche da radiomatoio. Con quella macchina lì tu stai per certo che 1,50 per 90-80 cm di larghezza. E con quella macchina io sono arrivato in capo al mondo. Posso fare tutto dalla M sino a guardare il televisore a colori. 200 watt di stadio finale da tutte le parti. I microfoni, grazie a Dio, non mi mancano. Ne mettiamo un bel SM20. E lì viaggia che è una meraviglia. Però, cioè, però, stiamo andando con una macchina digitale che non ha problemi di né della M, non teme la M, non teme l'FM, non teme l'SSD, dove tu la metti dei viaggi a questi livelli e con garanzie di alta classe. Allora Claudio Sparviero può andare in pensione, ma così io, credetemi, ho sempre la paura che domani, dopodomani, dopodomani ancora mi sveglio, accendo il 440 o accendo il 140 o accendo il 70, che ci sia sempre un problema, sempre, sempre, sempre, perché sono macchine che purtroppo hanno la loro età, è come guidare una macchina di 10 anni, 15 anni e andare a Cagliari. Non penso di arrivarci, perché prima o poi si ferma nel rotto e dice mi hai rotto le balle, io ho 15 anni, perciò devo rimanere a Sassari, andare a fare la spesa, non farmi fare tutti questi chilometri, perché non ce la faccio più. Oh, Casco, ma non ti aveva chiesto 30 euro e con 200 euro ti mettevi finale a Mosfet e mi dicevi su quella? Ma quella non è la mia, quella è quella di Dino che ti stavo parlando della scheda bruciata. Avevo capito quella, prima hai detto che aveva quella della scheda bruciata, mi parlavi, quindi avevo capito quella io. Sono due le radio, Fabri, sono due, anzi erano tre. Erano tre perché una l'ho venduta a pezzi di cambio, lo sai. E con quei soldi ne ho aggiunto altre 250 e ne ho comprato una nuova, che è quella che stavo modulando poc'anzi, e sono passato al 430 perché mi piace più la ricezione. E quindi tu immaginati in giro di pochissimo tempo che cosa sono andato a buttare con questi cazzo di 440. Perciò mi sono stufato, basta, cioè. Tanto lo so che Dino quella radio non la ritira, non la ritira perché me l'ha già detto, soldi non ne ha, non sto lavorando, quindi non la ritira, perciò me la devo accorpare io, ritirarmela io e sono contentissimo di farlo, però basta, questa è l'ultima volta che io riparo 440, metto tutto dentro il trolley e a dicembre partono tutti da RAE, se li arrangia lui, se li vende lui, a me batte via un bel Mark 5 seconda serie a 200 watt MOSFET con una radio, ripeto, da 1,80 m, io mi siedo qua e quando me la guardo e quando l'accendo mi scende solo la bava. Assembly. Lo so, è sempre un nuovo ignora quello lì. È sempre un nuovo ignora quello lì, lo so, va bene, va, comunque. Buon avanti. avanti. Allora aspetta, guarda, siccome io sono venuto a scoprire qualcosa su questo affare qua, allora vediamo un po', devo settare. Allora, lo devo tirare un attimino, poi mi dici un attimino se cambia. Tre segnali. Sei andato un po' fuori, sei andato un po' fuori, 9:20 è quasi segnale, ma sei un po' fuori di modulazione. Ok, fuori di modulazione, fuori di modulazione, fuori di modulazione. Oh, mi sposto io, bro, passa sul canale 30. Prec. Sì, Sandro, registrato bene. Sì, praticamente andato fuori radio. Sì, Pepe, questo lo so che sono andato fuori radio, no, ma era per stirarlo un attimino, vabbè, niente da fare, teniamolo costante. Va bene così, lascialo così. Avanti Gianni. Da Claudio, stavo guardando che difetto era. Mi stava mancando la modulazione di tanto, c'era lo squelci girato, è enorme, non sapevo cos'è. Nella radio di televisione adesso. Allora, mi faceva tac, tac, tac di due orecchie, ma che cazzo gli sta succedendo? Poi di colpo non sentivo più la modulazione ed era lo squelci. L'ha fatto anche a me un giorno, non queste chiamo del baracchino, che sono a un uomo già fare questo baracchino. Ho avuto ogni tanto l'HB23 mi. E allora da quando l'ho messo in macchina, avevo aver toccato lo squelcio, non è che ci metta a toccare. E i segnali bassi andavano ancora di toccare. Non lo succede. Ho toccato e c'era lo squelci più di metà, perché tu quindi segnali alti praticamente abbriva tranquillamente lo squelci, mentre invece i segnali bassi non andavano a colpi. La stessa cosa ha fatto a te. Antonello Alessio, riprendi. Aspetta, c'è Archimede, Archimede ci sei. Bene, buonasera a tutti, già era un ascolto. Com'è adesso il segnale? Scusate gli altri che sto facendo una comparazione di questo pomeriggio, che poi Gianni è andato a lavorare e non ho potuto concludere. Adesso arrivi 9:20-9:30 già. E anche tu sei così adesso, da 9:25-9:30 perché c'ho quello digitale, non c'ho quello analogico, là lo Smith. Quando metterò l'altro poi te lo darò perfettamente il segnale. Comunque ho capito dove è, perché ho visto anche la tua macchina parcheggiata. Ehi. Perciò la modifica l'antenna ha funzionato, dai, a posto così. Fai girare già. Ehi, va bene. Comunque mi sento perfettamente tutti quanti a Portottore, se Alessio arrivava a 9, stavo guardando i segnali con Giuseppe. Ho criticato quando ha detto che aveva 20 watt, non so quanto, ma arrivava più basso di Alessio. Boh, è strano, forse la zona è più favorevole per Alessio. E Alessio è una bella zona, forse ci crepa tutti. Alessio c'è una zona molto, molto alta. Boh, io ho notato anche dove mi muovo, anche a Portottore, quello che in genere lo sentivo meglio ad Alessio. Ci sta arrivando molto bene, capito già. L'ho notato anche io questo qui. Sicuramente è molto aperto, un po' è aperto questo Portottore, lo notavo questa differenza qua, capito? Riprendi Gianni, fai girare, dimmi come mi stai ascoltando tu. E 9:25 c'è Radio 5 e adesso arrivava a 9 al semaforo della Grindia, esattamente ho guardato il segnale da 9, quindi andava benissimo. No, sta arrivando a me, figurati se l'altro con l'antenna che cosa fa. Lo so, lo so. certo, l'ho visto, sì, no, ma gli esce bene adesso, capito? Gli esce bene, l'ho lottato, anche lui ha una buonissima posizione, capito? Una buonissima posizione. Riprendi anche me. E aveva una buonissima posizione, gli si è piegata l'antenna, vedi, non riceve nemmeno più. Ma più o meno si è sciolta. Ascolta, secondo te, in confronto agli altri passaggi degli altri giorni, la radio è differente oppure è uguale? O boh, vabbè, è cambiato baracchino, comunque, come ti sembra? Sembra più potente. Sì, sì, immagino così, perché mi stavo ascoltando anch'io su un altro apparecchio, togliendo anche la zona, e anche a me ha dato quell'impressione. Va bene, allora già va bene. Allora siamo arrivati, io, tu, Claudio, poi chi c'era? Grode, vediamo Grode, avanti Grode. Che più chiara già la motivazione per rendermi conto, questa mia o quella di Fabrizio? Sono due motivazioni completamente diverse. La sua rimane forte, sono chiare tutte e due, Claudio. La tua forse è un po' più chiara, la sua, però sono tutte e due belle, non posso dire. Quella di Fabrizio, la motivazione di Fabrizio, l'ho sempre detto che è molto forte, molto potente, si ascolta bene da tutte le parti, non ho niente da dire, dai. Però stasera, quando lui ha detto che dava dei picchi a 9,20, no, con 20 watt, ha detto 20 watt, ho fatto una comparazione con quella di Alessio, e arrivava più forte di lui, più forte Alessio di lui. Ma magari anche la posizione è diversa, là. Sì, sì, ma io non credo, vabbè, io il conduttore se lo vedo, però io sono del parere che a Sassari Alessio è uno di quelli che ha una delle posizioni migliori, perché quando esco fuori a lui lo sento sempre bene, anche Claudio, non gli posso dire niente, però Alessio lo sento sempre bene, ma allora hanno quella posizione che è buona, capito? Io ho notato che su altre sono più aperto, e se io ho tutto aperto perché vedo tutto, però magari sono più basso, capito? E quindi come ti sposi, dipende da tante cose, dai, non lo sapete meglio di me, dai. Molto più basso ovviamente, Marco. Ma molto, molto più basso, però non è la mia altezza. È che ha qualche dei varchi magari che le consentono di arrivare bene, ma non ha niente a che fare con la mia posizione. E lui già contattato, anche se la tira sull'antenna, anche dove era la manco va prima, non ha niente a che fare con me. È completamente fuori tiro. Ha dei varchi abbastanza interessanti, ma che vanno a basso o molto più basso di dove sono io, anche come apertura a tutte le parti, sul Porto Torre, Salghiero, Stintino, tutta la parte dietro Scalavicciotto, è molto, molto più coperto lui, non ha niente a che fare. Però si difende abbastanza bene, non è quello il problema. Ok, va bene, d'accordo. Allora, Antonio Domo che prende, Antonio Grode, avanti Antonio Grode. Pesce dal telefono, come al solito. Claro, tu hai la zona più alta e anche il palazzo che è più alto. vabbè, appunto, rispetto a lui e a tanti altri, l'apertura è completamente diversa, però dico per la zona che ha va molto bene, ma anche quando c'aveva la Mantova è diverso, capito? Uno sono delle zone particolari, delle aperture, dei varchi che ti consentono di lavorare in una certa maniera, sarà, però quella del 430 mi piace molto di più, ma per non bella là. A te, Sandro. Ok. Va bene. Dai, ho cambiato un attimino, giusto per farlo scaldare un attimino, bisogna farlo scaldare. Va bene. No, tutto bello, tutto una bella lavorazione, non ci sono problemi. La parte mia, nella posizione in cui mi trovo, lo ascolto tutti bene, la maggior parte tutti bene. Dall'inizio posso dire che ha migliorato sia come segnale, diciamo che sia come modulazione. Evidentemente magari non so, forse ha cambiato il tema, forse ha fatto qualche corrigimento, però diciamo che va bene. La maggior parte, diciamo, ascolto tutti bene la mia posizione. Va bene, ok. Break. Avanti, break. Salute a tutti, buonasera. Salvatore da questa parte. Ciao Salvatore, ben sentito da questa parte. Sei in compagnia di Claudio Sparviero, Sandro da Porto Torres, Gianni Doppio Room, Antonello e Antonio ci sono e non ci sono, non si capisce. E poi c'è anche l'altro amico che mi sfugge il nome d'attivo, che io la verità l'ho sentito oggi per la prima volta. E quindi ti rilancio e Salvatore fai girare tu. Massimiliano Schimede. Massimiliano, scusami Massimiliano, ecco, ti devo un caffè, scusami. Non problema. Ciao Max, buona serata a tutti quanti. Riprendete pure, io ho acceso adesso per fare un saluto e soffrendo di fare un lavoretto. Ma il nostro Grode ha spedito il tutto? Sì, il Grode non ha spedito, spedisce domani mattina, perché la radio, per una questione di serietà, io l'ho vista, l'ho controllata, gli sono stati fatti tutti gli oscillatori sono stati invece a posto, quindi quello potrebbe essere un pregio, no? Però c'aveva il volume che faceva il giro a 360 gradi, era duro, era tutta lucidata, era fatto tutta la vernice da dietro, un gran casino, capito? Perché poi quello della potenza degli 10 watt probabilmente non era un grosso problema, perché bisognava aprire e stare lì, probabilmente era solo magari una questione di tirare sui watt, di un po' come ho fatto io già questa, sicuramente si poteva provare, perché quello dà dei picchi negativi, ma quello probabilmente tu quando tiri sui watt poi devi giocare con un paio di trimmer per cercare di dargli picchi positivi, perché man mano che sollevi puoi fare un altro paio di regolazioni, quindi magari si poteva provare, ma non valeva la pena perdere tempo, perché anche se l'avremmo tirato su di watt magari le avevano abbassate, e adesso facendo un caso che avevo altri problemi, ecco, la radio non si vedeva che era stata, che non era come gli avevano detto perfetta, capito? Quindi ha fatto bene a rispedirgliela indietro. Ho capito. E insomma, però è fastidioso, è accidentaccio. Constatare che hanno abusato e ci hanno messo le mani dentro. Peccato, mi è dispiaciuto, ma d'altronde questi sono i rischi dell'acquisto fatti così. A me è andato bene, poi ieri mi avete fatto una carrellata di situazioni dove non è andato bene, però pazienza, peccato, ma spero ci saranno altre occasioni dove poter mettere le mani su una radio che al quale ambisce per poter trasmettere. Ok, dai Fabri, allora niente, riprendi pure tu, fai girare, io vi ascolto con piacere, salutone di nuovo a tutti. Ok, riprende e faccio girare. Sì, sì, proprio così. Ma poi io lo so che Claudio si sta disinnamorando di questa radio, però io più ce l'ho in mano, più ogni volta che l'apro mi piace, capito? Perché è tutta analogica e ancora ci si può lavorare. Poi su questa radio tu cerchi, ci sono una marea di da 1 a 6 a 30, puoi aumentare la sensibilità, gli fai delle modifiche e cambi tutta una serie di diodi, la fai lavorare così, la fai lavorare, gli puoi fare una marea di cose, nel senso che se uno voglia di sperimentare e di giocarci sopra, sempre facendola in maniera giusta, puoi fare tante tante cose, capito? È molto divertente come radio. E invece Claudio si sta disinnamorando di questa povera radio, capito? È come una bella donna che prima l'ha avuta tanti anni, e adesso la vuole abbandonare. Non lo fare, Claudio, riprendi. No, io ciao, saluto, buonasera, ben ascoltato. No, io mi tengo questa, mi tengo 430, non è che perché le 440 mi sono detto fatto. Fammi, tu ci hai giocato adesso con 440, forse te lo stai godendo adesso, io non sono stufo, 40 anni faccio radio, di cui 20 mi sono giocato con 440, quindi penso di avere voglia di cambiare, di giostrare. Una cosa è certa che questo 430 che a 440 se lo mangiano del crudo, su questo non c'è piovo, me lo terrò per giocare il 27, ma no, questi livelli, capito, non senza aver mai toccato niente, senza aver fatto mai niente, è una macchina che a me mi è sempre piaciuta, l'ho comprata nuova io, e quindi me la tengo anche perché c'ho la linea completa, c'ho la T250 esterno, che quindi lavora come 440, ma mi sono stufato il 440, Fabio. Io di 440 ne ho avuto esattamente 31 radio marcate 440, ne ho venduto 17, non mi hanno mai fatto una telefonata di una torre di un cesso, quindi penso insomma di meritarmi di andare in pensione con questo 440, perciò l'unica che posso dire, come non perché c'è sempre davanti, di poter aver avuto veramente un 440 quello che c'è Sandro, perché come ti ho già detto c'è lo stadio filare a MOSFET, quella radio da 200 watt, senza forzare niente, senza fare nessuna manovra, senza bisogno di agire sui trimmer, niente, quella è stata mandata fuori, messi in filare a MOSFET e mandata giù, punto. Quindi l'unica cosa che mi posso non pentire di averla da Sandro, per carità, perché è una persona che usa le cose come le uso io, ma l'unica veramente radio dove io mi sono divertito a fare radio amatore è con quella che è Sandro, ecco. Le altre ci ho sempre giocato, non ho mai fatto altro che tirare su un pochino di potenza, farle degli accorgimenti e basta. Mentre questo 430 è vergine, non è mai stato toccato da nessuno, mai fatto nessuna variazione, tirato su solo esclusivamente l'LC, punto. I watt sono solo effettivi, lavora con fine, credo, subiscono gli anni e vanno revisionate. Però, come sai, si trova tutto in rete, quindi non è che ti devi masturbare a stare a cercare come un pazzo l'effetto. Bene o male ti danno le dritte dove intervenire, fai i controlli su quella parte che ti interessa e vedi un attimino se come dicono intervieni direttamente su e non ci perdi chissà quanto, che tu altre volte è l'esperienza, no? A trovare il difetto, ti danno le dritte giuste, perché poi guarda, proprio ti ho scaricato una bellissima cosa, non so che l'ho scaricata perché tu magari sparisce, ho scaricato un file enorme con tutte le schede di servizio del Kenwood, ma a parte dal 140, del CS2, cioè ci sono non so quante centinaia di tutti i portali, che i 76, tutti quei portatili, se ti ricordi, l'espansione di banda, con tutte proprio le cose di servizio, no? I problemi che possono dare, li ho scaricati, domani magari possono sempre servire. E quindi sul 440 c'è una cosa impressionante, ma le modifiche, ti ripeto, che tu puoi fare per aumentare la sensibilità, sostituire, per aumentare, cambiare la tonalità, per qui, per là, che ne puoi fare poche di cose, una cosa impressionante, capito? Vabbè, va. Comunque, io ti saluto, Sam, buonanotte, sono le 10:30, quindi magari vuoi andare a Nina che domani si lavora, e niente, vediamo se rientra Antonello, avanti Antonello e poi fai girare tu, lo riprendi qua e fai girare, niente, fai girare tu, e me lo Claudio, riprendi Gianni. Si è addormentato, si deve mettere lanciato, sono per salutare mia figlia che è rientrata adesso dal lavoro. Sì, no, ti ho rilanciato io qua, ho rilanciato Gianni, rilancio tutti, ma ne stanno sparendo, cacchio. Allora, vediamo chi c'è rimasto, facciamo un righio, tu ci siamo, poi chi c'era Gianni, vediamo Gianni e poi fa girare lui, avanti Gianni. Gianni si avesse addormentato, ti avete. Adesso mi picchia l'altro amico, ma io prima di memorizzare i nomi mi ci vogliono non giornate. C'ho la testa, la mia madre mi diceva che c'avevo la testa in brodo, capito? Perché non mi ricordo niente. Cioè proprio sono sempre con gli appunti, cara. Quando devo fare qualcosa, anche tu la radio, devo sempre ricontrollarmi, non mi ricordo niente. Quello che ho fatto oggi, fa 3 giorni, 2 giorni domani, me l'ho dimenticato, sono a 3 giorni, claro. Stavo facendo quel vetrino, vedendo, adesso ce li ricordo, domani mattina se mi dice esattamente dove devo andare a riguardarmi gli schemi, e non c'ho una memoria che fa schifo, capito? Sembro di una pantenne, quindi riprendi tu e fai girare, dai. C'era Massimiliano Archimede, avanti Massimiliano. Eia, ciao Salvatore, tanto modo di salutarti. Fabri, visto che tu ti piace fare le modifiche, c'è una modifica che ho fatto l'altro giorno al mio, che purtroppo i 440 tendono a far inserire la ventola quando il finale è un po' troppo caldo. E c'è la modifica che c'è da aggiungere una resistenza al circuito di controllo della temperatura, da 820 ohm a 1 kg, io l'ho messo a 1 kg. E la ventola entra un po' prima, così preserva un po' di più i finali. Se ti interessa te la passo. Sì, la conosco, la 801 kg, ma la conosco. Non gliel'ho fatta se perché io volevo dire, perché a me, vedi, anche adesso lo sto provando, quello che dicevo, che l'ho portato su di così tanti watt l'apparecchio. Ancora non mi è entrata la ventola da quando sto modulando, quando l'ho presa alle 9, dalle 9 ore ancora non mi è entrata la ventola. L'ho sentito un attimo che è partita e poi si è nuovamente spenta, quindi non sta nemmeno scaldando molto. Sì, da 800 adesso, come vedi, Archimede, io vado giù un cab, adesso se tu mi dicevi la quanta era la resistenza, l'ho vista con la modica, proprio ieri la stavo guardando, perché stavo riguardando e mi era entrata in mano. Adesso come mi hai detto, me lo ricordo che era quello il valore, se no non me ne sarei ricordato, ma non so quante volte l'ho letta io la roba lì, ma non so sai, cioè adesso tu me l'hai detto, tu ricordami che l'ho fatto 2 giorni, io me ne sono già dimenticato, è un valore da 800 a un chilo, certo che ci vuole molto, capito? Avanti, a te. Guarda che il fatto che non entri la ventola non vuol dire niente. Io mi sono preso la briga di misurare le temperature. E effettivamente da me entrava intorno ai 70. Solitamente non entrava mai perché non ce la faceva mai. Però l'ho fatto andare ed era arrivata a 70 gradi, che per me è un po' troppo. Però vabbè, io comunque l'ho fatta, è una cavolata, si mette in serie la resistenza che c'ha già lui, adesso entra intorno ai 48, 50 gradi, siamo lì, vale dai 45 ai 50 comunque l'escursione, entra quasi come raggiunge quelle temperature, è un po' fresco il finale, se no tende a deteriorarsi con il tempo, poi specialmente quando sono un po' spinti e hanno bisogno un po' prima di essere raffreddati un po' prima. Se hai la possibilità, misuratelo con un termometro elettronico a quanti gradi sta entrando la ventola. Sì, lo misuro, oggi non lo misuro, quindi chiacchierare con lui mi fa solo male, perché mi hai messo la fregola di farlo, lo volevo fare, se cos'è? Io ogni volta, ogni tanto, non ho mai misurato col termometro, bisogna che la metta la sondina, però io quando non sento che parte la ventola all'altra metto la mano, no? Per vedere se non c'è un problema, e in effetti comunque ancora non sta bruciando, è abbastanza tiepidino, quindi è normale. Poi in effetti farla, addirittura c'è qualcuno comunque che fa la modifica inversa perché la ventola entra sempre troppo velocemente, quindi gli dà fastidio e quindi diminuisce la resistenza per cercare di farla entrare un po' più avanti da qualche parte, avevo letto, quindi però in effetti quando questa radio che usiamo in AM che poi facciamo queste modifiche qua come ho fatto io adesso un po' anche esagerato, certo che adesso magari ci potrei pensare di cambiare resistenza, capito? Perché insomma, poi tieni conto che quando tutto il dissipatore comincia a essere caldo, dentro il finale è ancora più caldo, perché tu tocchi il dissipatore all'esterno, la temperatura poi maggiore è all'interno. Io ho fatto la misura mettendo il sondino dentro, proprio dove c'è il termistore lui, a contatto del finale, l'ho messo proprio lì a fianco e mi sono misurato così le temperature, perché ho notato che quando lui arrivava a 70 gradi che cominciava a intervenire la ventola, fuori sembrava tiepido, tranquillo, perché prima che riscaldi tutto ne passa, quando tutto bello caldo dentro arriva anche a 80-85 gradi. Quello è vero, adesso gli do uno sguardo nuovamente, domani sono lì, se ne voglio, tanto un attimo da fare, e gliela metto, guardo un attimino dove è esattamente, adesso mentre parlo con te me la guardo, e poi al limite gliela metto, in effetti farlo partire un po' prima, adesso che gli ho aumentato il vatto in questa maniera, non è male, dai, anche tu hai ragione. Buoni consigli, bene accetti e ti fanno ragionare un po' di più su alcune cose, già va bene, io non c'è tutti i torti, bisogna che ci pensi adesso e probabilmente gliela facciamo questa cosa qua, dai. Riprendi tu a far girare Archimè, io scusa se ti sto chiamando sempre per nome, così lo memorizzo. Sì, non c'è problema, non ti preoccupare. Oh, io mi sono permesso, per carità, visto che ti piace così sperimentare e fare, io ripeto, io l'ho fatta perché secondo me può far solamente che bene magari all'apparato e lo tiene un po' più preservato all'atto dei finali, tutto là. Chissà, quando poi si iniziano a deteriorare, cominciano a calare, a scendere, la radio si rovina, poi bisogna cambiarli senza per spese. La resistenza da un chilo costa qualche centesimo, i finali ne costano molto di più. Ma boh, dai, a chi tocca? Gianni, riprendi tu, se non ti sei addormentato, se no riprende Claudio, poi fa girare Salvatore. Riprendo io allora, dai. Comunque sappiate che 430 ce l'ha già di serie. La funzionalità della vento di tirare su la performance, come effetto indotto, minimo sia un innalzamento delle temperature, per cui io lo davo quasi per scontato il fatto che uno nel momento in cui voleva dargli un po' più di brio alla propria radio, è come minimo un effetto joule indotto ci sarebbe stato. No, Massimiliano? Molte volte si tralascia questo piccolo particolare, ma io sinceramente non è che l'abbia spinta più di tanto, perché questa qua l'abbiamo trovata riallineata con i parametri di fabbrica e poi gli ho dato quell'accento un po' più performante per quanto riguarda la modulazione. Infatti c'è un'escursione che varia dai 45 a 100 come escursione quando va in modulazione in AM. Poi come picco massimo c'è sempre 100, non più di 100 gli ho dato, proprio per non stressare troppo i finali. Però ho notato che in ogni caso la ventola entra sempre a prescindere da quella temperatura, quei 70-80 gradi, che effettivamente sono un po' eccessivi a parer mio per un finale. E infatti c'è una modifica, una guida, in ogni caso indotta dalla casa madre a suo tempo, proprio perché si erano resi conto che in ogni caso col tempo andare stressa il finale. Vabbè, ma poi dipende anche dall'uso che se ne fa, come lo facciamo noi qua in AM, che magari lo usiamo passaggi corti, riesce magari un po' a dissipare lo stesso dissipatore, ecco. Diversamente in banda laterale, che si fanno passaggi chilometrici, magari lì comincia a farsi sentire un po' di più lo stress. Comunque ieri sera stesso sono riuscito a buttare giù tutto, a installarlo, e lo stavo già usando. E niente, sto vedendo un attimino tutta la procedura per farlo andare sotto iOS, voglio vedere un attimino sotto l'iPad cosa riesco a fare. Comunque si appoggia sempre all'Xcode che ho già sul Mac e fa la condizione con quello lì. Va ricompilato con quello praticamente, da quanto ho capito. Eccomi. Sì, il tuo trombone. Fai un passaggio. Non mi dire che è bassa questa popolazione, perché è strepitosa, di una chiarezza allucinante. Beh, è ancora più profonda. È bella, questa è una blu 908 della Bonis con la modulazione praticamente equalizzata. Zappa. Sì. Si sente. Si sente. Ma prima mi hai incuriosito quando hai detto che avresti portato tutto nel trolley. A che macchina pensi di ispirarti? No, per Massimiliano mi dai un giudizio su questa radio. Minchia, mi sto ascoltando, è veramente eccezionale. Io tengo questa per giocare in 27, perché è una macchina che mi ha dato sempre delle grandi soddisfazioni, ha degli abbinamenti e degli accorgimenti diversi da quelli che sono 4x4. Barry White, ci siamo. Va benissimo, va veramente bene, va. Abbastanza profonda, proprio da salotto, come si suol dire. Salvatore, per intenderci, a Claudio gli piace, non so se hai visto il mio sito, quello che ti ho passato ieri, dove c'è, ci sono le mie radio, e quella nera, quella grande con tutte le monopoline e le scritte dorate, a lui gli piace quella lì, gli piace. No, non ho avuto ancora occasione, perché poi oggi con il rientro è stata una giornata, cioè, infatti non tardo ad andarmene a letto. Ma perché tu c'hai quella? Io c'ho anche quella lì. Io sto usando quella che stai usando tu, la sto usando Claudio adesso così per giocare in 27, però per altre attività uso il Mark 5, quella da 200 watt. Io ho la linea completa, l'alimentatore suo dedicato, perché è una radio che va a 30 volt, che ha i finali MOSFET, lavorano a tensioni superiori, e la colonnina esterna, l'SP8, che ha i filtri per l'audio, per quando si in banda laterale, per dare maggior pulizia alla modulazione, e più monta un filtro meccanico interno per l'SSB da 2.3, il famoso Collins. È veramente una bella radio, Claudio, si riesce a prenderla, è veramente una bellissima radio, funziona bene, doppio WFO, e filtri notch digitali. Poi c'è tante altre funzioni che, guarda, è uccidiale. Io mi sono sempre trovato bene. Sabato, sei 5 secondi, baci così, vedi un attimino le quattro radio che ho messe in croce con le scatolette di tonno. Col tonno dentro. Sai che mi avete incuriosito, eh? Faccio un salto. Vai, vai, tanto guarda, ce ne sono tante, ma è quella più grande, poi vabbè. C'è scritto Yaesu MP1000 Mark 5, Mark 5. Una bella radio, una bellissima radio, caro Claudio. Se ti prendi quella lì, è come prendersi una miraglia. A te, Claudio. Sì, ma la conosco, non è un problema. Io ho l'effettino 950 che è il figlio del Mark 5. Se tu lo guardi davanti è preciso identico, non è che cambia molto. Ha delle cose, naturalmente più doppio display, anche questa c'è il doppio WFO, c'è un sacco di cose, tutti i filtri digitali. C'è appunto il filtro notch, tutto dalla lavetta, non è che si allontana molto dal Mark 5, è che ancora no, Facebook non ce l'ho e non ho, come vi ho già spiegato, sarò l'Highlander, l'ultimo che rimarrà, ma non me ne farò mai profili, non ci bazzico, no, però ho visto quello di Max poco fa. Bella, accidenti, accattivante come visione, un bel impatto. Bella, complimenti. Ma vedo che fai collezione di radio. No, le uso, non ne faccio collezione. le uso. E vabbè, lì anche, diciamo, è una foto anche un po' non tanto recente. Non so se ci sono tutte, perché poi mentre ne avevo preso qualche un'altra, mancano quelle digitali, perché poi nel mentre mi sono fatto anche il sistema di Star, praticamente quando è come il digitale terrestre, come funziona, non trasmette più in analogico ma direttamente in digitale, trasmette i bit. E ho preso sia il veicolare che il portatile, cioè così in Vistar. E più ho fatto il nodo quando ero di là. Adesso come mi rimetto le antenne qua, me lo faccio anche qua, di nuovo il nodo, solo da poter comunicare con tutta Italia. Comunque stanno facendo tutti i punti interlinkati come NIC nazionale, però tutto in Vistar. Ha registrato il break. Ho capito. Ma che hai anche un contratto da 4 kW e mezzo in casa per alimentare tutta l'ambaradan e non far arrabbiare tua moglie? All'incirca. Avanti il break. Ciao, no, non so se mi avete chiamato, Fabrizio, sempre, che sono andato su un altro canale e stavo facendo un paio di cose, gli ho abbassato un pochettino di potenza e stavo facendo due controlli. Parlo un attimino così se va sempre bene come modulazione, come radio, se sto strappando, non lo so, guardo un attimino. Dalla mia parte arrivi a picchi di 9,40, poi come segnale, come voce mi sembra, forse una diminuzione la gradirei, però dipende dalla mia posizione, non so, Claudio. Beh, hai accettato la mia in queste condizioni, io sto mandando quello 1,900 per il sottoletto, e quel dottore incorporato è totalmente ancora più alta di quella sua, per me va bene, non ci sono problemi. Ti spaventi per così poco, ce l'ho, però se vedi la mia sala verde ti metti le mani in testa. Ci sono 5,40 metri più l'angolo, praticamente questa è una L dentro una stanza dove io sto in mezzo con due sedie a carrello fatto da falegname, una stanza da 6 metri per 4, anzi 7 metri per 4, 7 per 4, 28 metri quadri di serradali, e ti spaventi per così poco. Però io se ne vedi, allora di sale radio serrato, madre di Dio, ma per me va bene, famiglia, non ha cambiato assolutamente niente, segnale 9,40 e la radio 5 perfetta. Piuttosto dimmi se ti piace questa modulazione con 430. Sì, già mi piace, li avrei tolto un po' più di bassi se glieli puoi togliere, però è bella, il 430 comunque fa quel tipo di modulazione, dà un po' più di corpo del 440, capito? Quindi se vuoi provare, se no va, comunque va benissimo, sei molto simile, beh, va bene. No, Micra, stavo poco, gli ho buttato giù un po' di vatte, quindi una volta buttato i vatte, stavo giù in cerchio che era in negativo, adesso dai, non gli sto facendo superare esagerando, adesso quant'è? Allora, ce l'ha capottata, 1, 2, 3, no dai, almeno non supera prima era esagerata, l'ha abbassata, 130, 150 esagerando potrebbe andare, dai, di picchi. No, va bene così, no, io sono colladone, se quindi le condottore a... allora... 2700, 250, le regolazioni più o meno sono quelle, beh, è proprio il tipo della radio che le dà questa penalità. No, no, va bene, lasciala stare così, no? Io ti ripeto, il mio 440 non va più di 120 watt, ma sono stato io proprio che glielo ho voluto dare così, e tra l'altro, come ti ha detto Massimiliano, il sistema di ventilazione a 70-75 gradi è molto pericoloso, mentre il 430 viaggia a 40-45, non di più, 45 gradi. Io avevo già constatato che l'avvento non va in funzione perché il sistema è quello, e quindi è meno pericoloso, tanto è vero che è ghiacciata, è completamente ghiacciata, non cambia niente, ma ti conviene lasciarlo così, dai, avanti Massimiliano. E niente, sì, come stava arrivando, mancano quelle digitali, poi manca la colonnina del Mark 5 lì, diciamo sotto. Adesso dove quest'altra casa sono riuscito un attimino a allargarmi un po' di più, adesso devo continuare a fare una sorta di L. Però io qua ho la fortuna di avere una piccola stanza, piccola per dire grandezza, un banco da 3 metri, ci sta tutto, e però ho lasciato lo spazio dietro, finalmente posso passare dietro per i cavi, che più di una volta mi capita di stare lì a smontare, fare, cambiare, e almeno posso avere tranquillamente dietro il banco degli attrezzi e fare i lavori, invece di là ogni volta era un problema, era. Devo stare sempre lì a scarrellarlo tutto quanto, il cavolo era abbastanza pesante. Ma Salvatore, hai anche le frequenze dell'IPG o hai solamente l'HF? No, non solo l'HF. Ah, ho capito, vabbè. A te, Fabri. No, mi riprendi 2 minuti, ecco, è entrata la vita, no, sto richiudendo il coprichietto posteriore dove si interviene, perché stavo abbassando un pochettino quella roba lì, giusto, perché come dicevi tu abbassiamo un po', se ce la faccio domani, in questi giorni cambio quella resistenza, eh. Ma guarda, non la devi cambiare, perché cambiarla è impossibile, devi smontare tutto il circuito del PA. Ti conviene, tanto è l'R27, si trova sopra il trasformatore in ferrite, sotto la scheda filtri. Devi tagliare la R27 e praticamente la metti in serie, la metti sopra, e hai finito la modifica, ci vogliono un paio di minuti per fare la modifica. Allora, fa riguardarlo, dai, allora aspetta che me lo segno, così non sto a riguardarmelo. Io l'ubitenso però ho letto un'altra cosa e mi dava un valore diverso, però da qualche altra parte avevo letto proprio così. Allora, R27 da 800 a 1 kg devo aumentare, quindi sta sotto la scheda filtri praticamente, quindi smonto la scheda filtri e lì sotto dovrei trovare, vicino alla ferrite dovrei trovare questa roba qua, giusto? Confermi? Allora sì, tu smonti tutto lo chassis della scheda filtri. Stato, da una parte c'hai un pepinino di contatti con il cavettino RF, schiacci quelli lì e il filtro, la scatola del filtro la puoi abbattere lateralmente, e l'altra parte la scatola collegata, che ce ne sono truppi di cavi da rimontare. Poi praticamente dove ci sono i due finali, in uno c'è la pasta siliconica. Sì. E lì partono, parte il trimestore che va a fine sulla pista, poi lì si trovi proprio vicino al reofolo del trimestore, trovi l'R27 che è messo in verticale, proprio dove c'è il cancello del reofolo che va a finire poi nella pista, lì lo tagli e lì tra i due diciamo, spezzoni che ti rimangono, ci inserisci la resistenza, va bene anche da un chilo, così magari ti entra anche intorno ai 40-45 gradi, perché con quella da 820 era intorno ai 50-55. Io l'ho messa da un chilo perché c'avevo da un chilo, ma ho visto che entra intorno ai 45 gradi, che va bene ugualmente, tanto poi non gira molto veloce la ventola e poi è abbastanza silenziosa. Io se da qualche parte volevo addirittura anche a 3 kg la metto, no? No, 3 kg è tutto, perché la resistenza all'R27 è da 2 kg e 2 più 800, siccome 800 non esiste, esiste da 820, comunque più 800 fa 3 kg in tutto, capito? Per quello è. Invece se tu la metti da 1 kg risulta 3 kg e 20, 3 kg in 2, ma siamo. No, ok, capito, stavo per fare, sì, infatti stavo leggendo nella modifica, era 3 km ovviamente totale, quando avete 1 km, per quello che prima smontare io avevo capito che 1 km era il totale, ok, era 3 km, quindi già come dicevo, vabbè, perfetto, ci siamo capiti, dai. Poi vabbè, se hai la possibilità di avere il datasheet, lì c'è la parte dell'unità finale, la vedi, la puoi vedere anche da lì. Sì, no, faccio così, adesso domani la prendo e poi la faccio partire un po' prima, dai. No, va bene, no, adesso sono, ma picchia sempre molto, vabbè, ma lo lascio così, tanto magari abbasso il carro se lo voglio un po' di meno e via, dai. Non c'è problema, o se no, vabbè, puoi giocare un po' con i gain, poi vabbè, dipende un po' come vuoi andare, anche perché adesso vabbè ce l'ho staccato, se no accende un attimino le C7000, siccome c'è un indicatore di spettro e sicuramente ai lati sicuramente che si innalzano un po' troppo, perché quando si spingono molto su si tende un attimino anche a allargare la banda passante e tende un attimino a sporcare, anche se inizialmente non si sente, però poi dopo si vede con un condensatore che ai lati incomincia a avere dei picchi che non fanno bene. Ma quello è normale, cioè quello credo che sia una cosa normale, quando inizi a toccare lì alla fine allarghi, è impossibile, in AM allarghi, cioè non è che, aspetta scusa, ecco così va meglio, ecco vedi, ecco, aspetta scusa se ti, ok, vedi 20 watt così, cioè gli dai bei picchi, vabbè, sì no, vabbè, quello è ovvio, perché poi se giochi sull'amplificazione, giochi lì, ovviamente allarghi, e quindi se ce l'analizzi tu ti stai allargando dal centro, ti stai allargando su una banda laterale, sull'altra banda laterale, perché la M poi occupi tutto lo spettro ovviamente, quindi più tocchi lì e più occupi, diciamo così, se vogliamo dire, occupi canali, occupi spazio di frequenza, e quindi se c'è la possibilità anche quando analizzi il segnale che ti arriva, c'è l'analizzatore di spettro sull'apparecchio, ti renderai conto che io che ho toccato lì ti arrivo molto più largo di un altro che non ha toccato niente. Ma quello senza dubbio, però se si riesce a contenere la larghezza è sempre un bene, capito? Diciamo più che altro per gli altri. Vabbè, per gli altri anche per l'apparato, tu tieni conto, se no diventa un trasmettitore a larga banda. Lo so, e quindi vai a disturbare anche. Soprattutto anche quello lì, capito? Però poi i filtri non lavorano bene, cioè, perché l'apparato è studiato per lavorare entro certi limiti. Se tu vai oltre è un casino. Poi anche gli altri, secondo l'apparato che c'ha uno, dall'altra parte, ti sente male. Magari tu stai uscendo anche bene, perché la larghezza vai oltre i 6 e l'altro ti sente strappato. se magari tu stai trasmettendo in, diciamo, come ampiezza è buona, è perfetta, però siccome la larghezza è troppo ampia e quell'altro ti sente male. Potrebbe anche essere. Bene, vedere, boh, quello non, guarda, io la verità, ho questo apparecchio, anzi se mi puoi dare qualche consiglio, scusate gli amici che sto monopolizzando, è perfetto in tutto, io visto che lo conosci bene di quadra e quadra, gli ho cambiato un po' di diodi sulla piastra, cambio banda, no? Ne ho quattro, sia quelli, diciamo, che sono per i trofi positivi e negativi, diciamo, come nominati per di non positivi e negativi, scuso, pari o dispari, no, come nominazione, quindi avrei capito di cosa sto parlando, perché avevo le bande sotto che mi sembra siano a 500 kHz, da 30 a 500 kHz che era morto, e quindi sono intervenuto lì, poi sono intervenuto sui VCO, sul VC1 l'ho dovuto rifare, e gli altri quattro oscillatori invece erano a posto, sì, quelli ho solo allineato, però dovrò fare un buon allineamento perché va tutto bene, perfettamente, spacca la frequenza, non ho problemi, l'unico problemino è in credo che abbia problemi in ricezione, mi porta dentro troppo rumore, quindi ha un rapporto segnale-rumore un po' troppo alto, e prima di intervenire volevo proprio fare un allineamento, però purtroppo oltre frequenzive tra cosa mi mancava anche strumento, infatti ne ho già parlato anche oggi al telefono con un amico, una di queste notti, tanto lui è nottambulo, che è libero, io ho l'analizzatore di spettro in garage, anzi carichi su, ormai è diventato mio, che gli devo portare per dei lavori, e mi avvicino lì, magari un'oretta, un'oretta e mezza, e provo a fare un allineamento, che lui ha tutte le attrezzature, poi è proprio del mestiere, probabilmente lo conosce anche, ma comunque uno del mestiere che fa solo quello, quindi voglio fare queste prove, perché ha questo problema, quindi ti chiedo anche un consiglio, tu ne sai qualcosa? So qualche cosa, sì, però come hai detto tu, prima bisogna riallinearlo con i valori di fabbrica, poi vedere se si continua a dare lo stesso problema, capito? Può essere anche un discorso di allineamento. Ma più che un generatore di spettro, lì ti serve un buon generatore di frequenza, frequenzimetro, ti servirà. Mi pare che ci siano alcune parti ci vuole l'oscilloscopio, l'indicatore di spettro ti serve solamente se fa letteratura in trasmissione, in ricezione non viene richiesto. Sì, ho visto, no, quello perché ce l'ho io in garage e glielo devo restituire, che lo uso per altre cose mie e me l'ha prestato e ce l'ho anni, ormai anzi è diventato mio, adesso mi ha detto poi me lo restituisci, gli ho fatto una battuta, no? Lo usa due giorni e poi me lo restituisci, siccome lo uso molto io e ce l'ho io, lo devo portare per altro, quindi però probabilmente potrebbe anche servire perché vogliamo fare anche un'altra prova. E comunque niente, gli buttiamo un segnale dentro e lo seguiamo sino all'altoparlante per vedere cosa succede, capito? Quindi da qualche parte, io stavo pensando che avesse il problema qualche parte lì sul mixer che magari lì dove moltiplica fa ci possa essere qualche problema lì, ma magari di allineamento, ripeto. No, guarda, sicuramente di allineamento, perché se gli hai cambiato quei diodi e hai rifatto i VCO o qualche cos'altro, sicuramente è una questione di allineamento. Perché io quando ho rifatto questa qua l'ho dovuta riallineare e l'ho fatta per un paio di volte, c'è un motivo che poi quando vai a toccare tutti i compensatori e tutte le induttanze, poi quando lavora tendono un attimino di nuovo a... essendo una cosa meccanica tendono un attimino a riassestarsi, poi dopo gli alza un'altra volta e sei a posto. Ma l'unica cosa che serve è un buon generatore, bello, stabile, preciso, e se no ti manda fuori. Poi intanto se ti prendi il datasheet c'è la parte, quasi all'ultima pagina c'è tutta la parte di riallineamento, basta seguirla passo per passo e in tre quarti d'ora, un'oretta te la fai. Sì, no, ho visto, è molto semplice, è molto semplice da fare, ho visto che ci saranno 4-5 pagine per rifare l'allineamento, non ci vuole, una parte l'ho fatta, ti ripeto, quando ho rifatto tutti i cucciò, però mi mancavano un po' di strumentazione, quindi generatore e oscilloscopio, quindi non cosa fai, cioè, più di tanto non fai, capito? Sì, quello c'è, la fai tranquillamente. A voi guarda, di 440 ne ho allineato tantissimi, come ne ho allineato di CR7000, di ricevitori. Le procedure sono sostanzialmente quasi sempre le stesse, cambia a disposizione dei componenti, ma la minestra poi è sempre quella là. Ripeto, ci vuole un buon generatore, perché sennò poi dopo ti diventi scemo. Vabbè, questo lo fa, è il suo lavoro, dai, fa tutta la alta frequenza, ponti radio, tutta questa roba qua, una vita e mezzo, forse ci sono radio sue che stanno ancora girando in 27, quindi no, non c'è problema, e quindi no, lo faremo insieme, anche perché io ho certe apparecchiature, come cavolo faccio, vabbè, giù magari da noi le potrei anche tirare fuori, ma sono apparecchiature che devi sapere usare, non è che ti inventi dall'oggi al domani, nel senso che se te lo prendi ce l'hai lì, ci giochi, quindi due secondi, ma se non è la tua la macchina, devi anche imparare a conoscere la macchina e non hai capi piedi, quindi preferisco, infatti te lo fai, no? Ci vediamo un giorno e lo facciamo insieme, così mi devo anche perdere tempo a capire come funziona quella macchina, cosa, poi fai casini e perdi solo tempo, capito? Ah beh, quello senza dubbio. No, vabbè, io già purtroppo sono rimasto orfano l'anno scorso proprio di una data di spettro, perché si è rovinato, l'avevo mandato su e praticamente non me l'hanno mai riparato. Però vabbè, ho fatto un cambio e in cambio abbiamo fatto il lanciatore diretto, che è quello ugualmente comodo per i filtri, è allucinante, e anche per le antenne, perché ho il potere elettrometrico, con quello lì riesco a fare un bel po' di roba. Poi il resto ce l'ho tutto, perché io faccio ponti radio, faccio radiofrequenza, faccio per aziende civili, e qualche cosa già se va, se sono fermo da un po', vediamo se riesco a ripristinarmi un attimino a tutto rispetto, devo fare dei lavori, spero più presto, perciò così riprendiamo un attimino un po' le attività. Boh, facciamo girare, vai Claudio. Mi permette un attimo, voi sto facendo una cosa, sto cambiando di posizione, non avanti. Ehi, ok, tra riprendi Grobbe, mi sembra di averti sentito. Scusate, mi sono in QRX, perché sto scrivendo una lettera, io non mi ringrazio per la compagnia che mi state facendo, però devo finirla per il corso, non sono qua in ascolto. Dai, lo so che ci metti un po', perché purtroppo è così, dai, continua a scrivere, se ti serve una mano e ti servono due paroline, te le dico io, tu vai, fammi una bassa al limite se ti interessa, va bene tanto. Se no mi capita più di una volta di piacere lo stesso tasto, ma questo è un altro di quei problemi. A scrivere lettere, meno male che c'è il computer che mi aiuta con le doppie, che sono un arginello, che se no avrei fatto tante di quelle brutte figure. No, faccio il minimo indispensabile, dai, in matematica, in materie tecniche ero bravissimo, ma in italiano non ero una cima, la verità si dica, facevo il minimo indispensabile, ancora oggi me lo porto dietro purtroppo. Va bene, dai, vediamo chi c'è rimasto. Claudia è in QRX, Antonio è in QRX, chi c'è rimasto? Salvatore, avanti Salvatore. Sei K. No, io ne approfitto e vi saluto invece. Mi sono fatto una cultura su questi modelli, ne ho approfittato. Stavo guardando un pochettino e poi alla fine sono andato a finire sul sito Massimiliano di Media Globe e stavo guardando tutti questi modelli degli Aesu e su Maria, che macchine, accidenti, belle, proprio belle anche da vedere, figuriamoci saperli utilizzare al meglio. Sì, niente male, niente male. Ok, signori, vi ringrazio per la chiacchierata, però io spengo perché domani mattina è una bella giornata per tutti, penso. Grazie del questo. Ciao Max, ci sentiamo alle prossime. Ciao Fabri, ciao Antonio e ciao Cla. Alle prossime. Buon tutto, chiudo la trasmissione. Ciao ragazzi. Ok, ciao Salvatore, buonanotte. E a domani, a domani. Riprendi Archimede. Ciao Salvatore, ciao, ci sentiamo domani. Spero che abbia visto anche la mia davanti. Ciao Salvatore, buonanotte. Ma vi saluto anch'io che è tardi domani. È un'altra giornata. Buonanotte a tutti, prima di chiudere. Ciao Massimiliano, ciao, ci sentiamo domani allora se coincide. Buonanotte anche a te. Ciao Salvatore, se siamo a trovare il sito della IAISO sicuramente hai visto anche la mia macchina, la FT 950, che è simile a quella di Massimiliano, ma è simile però, è solo simile. Va bene, ciao, buonanotte, avanti Fabrizio. Ed approfitto, no, salutoni anche a te. Sono macchine da sogno, complimenti perché sono belle. Poi voi certamente potete apprezzarne molto di più di quanto lo possa fare io le caratteristiche tecniche e soprattutto avendole usate e visto che le usate le differenze. Però sono degli oggetti d'arredo, non ci sono parole. Vabbè, quando toccherà a te farai anche tu ciò che desideri. È chiaro che noi l'esperienza ci ha insegnato tante cose, quindi avere macchine del genere nelle sale radio dei radioamatori è una cosa più che normale, perché queste sono dei giocattoli a confronto con quelle macchine lì digitali e di ultima generazione. Però ci si può divertire anche con poco, con queste. Io mi sono divertito tantissimo, ecco perché ribadisco il fatto che è ora che mi stacchi un pochino da questi giocattoli e inizi ad usare macchine un po' più complicate che mi diano un po' più di soddisfazione, ecco. Senza tralasciare naturalmente il fatto che una me la tengo ed è sicuramente questa che sto usando adesso, che è il TS430. Va bene, ciao Salvatore, buonanotte, a domani e niente, buona giornata. Avanti Fabrizio, riprendi. Guarda, riprendo io, passo un minutino che sto rispondendo a un'email veloce, poi facciamo una prova se non ti dispiace. Va bene, sono qua. Non lasciare mai niente di quelle cose lì. dice a voi poco fa ad Archevedi, scusate, ma c'è una testa, cazzo, tu non ci credi, c'ho una testa, mi dimentico tutto, cazzo, non c'ho memoria di niente. Chissà che con la vecchiaia migliori, ma ne dubito. Ascolta, c'è un paio di passaggi in banda laterale, adesso mi piace, vedi? Adesso come vatte, mi piace che non ve l'ho portato solo di picco a 150, vedi adesso? Sono 15, arriva a 50-60 e va bene, dai. Ascolta, voglio provare a mandare la canale per vedere un po', ti dispiace, Cla? No, assolutamente. Qua nello stesso canale. È affermativo, va, che così proviamo e provo in vatta a vedere. Ok, va in USB allora. Allora. Claudio. Sì, dimmi. Veloce, un secondino, passa un secondino in FM che ti faccio un ultimo passaggio proprio per vedere se io quando vi siamo picchi negativi. Anche in M? Aspetta che do un'occhiata, 1, 2, 3, prova. No, in M, aspetta. No, in M non mi sembra di no. Adesso non ce l'avevi più. No, in M sta andando benissimo, Sandro. Io sono adesso con l'MC60, sempre con la stessa radio, Sandro. Mi ascolti bene? Ok, sto memorizzando la timbrica. Sì, va bene, sempre grossa come la tua voce, ok. Prova a fare una differenza, vediamo come ne accorgo. 30 di cosa? Tu adesso sei con l'MC. Siamo con l'MC60 adesso. Nico, non vuoi provare radoni? Sì, te lo provo. Ok. Prova radoni, però che ho già capito tutto, a me piace più questo e sarà, rimetti e vediamo con l'altro. Questo è radoni, secondo me, guarda, te l'ho incorporato, inserito. Ok, allora. La timbrica è molto molto molto simile, sei riuscito ad avvicinarti molto probabilmente. Si sente un po' più effetto camera. Un po' più alta di tonalità, vero? Sì, beh, la regolazione l'ho fatta in base a una modulazione, quindi avendo l'equalizzatore gli ho dato i similari della mia voce, quindi come tonalità alta e bassa, tieni conto che sto parlando molto molto piano. Molto piano, perché sono già andato a 10, anche se la stanza è tutta mia, però con le bombe, quindi niente. Quindi cosa mi dite, ambedue? Da 1 a 10, MC60 o Adonis per questa radio? Allora. Io, cavolo Claudio, un po' mi dispiace perché lo stavo ascoltando, no? Io così come il tuo Adonis è regolato adesso, preferisco l'MC60. Concordo, io te l'avevo già detto prima. Concordo. Ok, io concordo con voi, stacco la radone se uso l'MC60 e la radone se lo mettiamo sull'Icom che lavora in FM. Perfetto. Sì, perché ti si gonfia un po' troppo. Adesso mi faccio il quello che quando entro nelle macchine di giudico, ti si gonfia un po' la parte meglio bassa della voce. Se riuscissi, che adesso un equalizzatore tipo parametrico che puoi togliere le frequenze più basse, che ne so, dai 200 ai 400, 600, un po' abbassare quella curva, probabilmente avresti la stessa modulazione, però sarà per me l'MC60, non ce n'è tra. Noi allora abbiamo inserito l'MC60, ecco qua l'MC60. Allora, la Bonsi ha un grafico dell'equalizzatore praticamente 2000, 1540, 240, poi c'è più 12 dB, 0 dB e meno 12 dB. Altre cose da fare non ce n'è. Ok, questo è l'MC60, lo lasciamo l'MC60. Sì, lascia quello, 500 e 800, 500 e 200 dovresti provare ad abbassare come frequenze e ti dovrebbe togliere quella, ti fa la voce troppo, poi qui ce l'hai già grossa la voce, capito? Te l'ingrossa sotto come un contrabbasso, tra parte di basso si sta gonfiando. Hai lo stesso problema, capito? Problema, se lo vogliamo chiamare problema, è paragonato a quello. Questo invece è tutto più regolare come microfono, più lineare la voce, capito? Infatti mi sto ascoltando in cuffia, è molto bella. L'M60 per me è M60, non c'è niente da fare, a prescindere dal fatto che la radio stessa, che è questa, 430, lavora in maniera strepitosa, va molto bene, c'è una recensione favolosa, un'ottima trasmissione, quindi sarà sicuramente questa la radio che terrò, insomma, lei. Quindi Sandro, confermi anche tu, MC60 allora questa modulazione? Sì, ti confermo sì, con la particolarità del fatto che si assomigliano tanto, guarda, davvero si confondono. Per un attimo quando hai detto di essere tornato all'MC60 ho avuto qualche dubbio che non lo eri, quindi si assomigliano tanto. Però se per caso tu fai un passaggio un po' lungo e parli, mi accorgo che con l'Adonis ogni tanto, quando cioè, monti toni bassi, qualche parola, qualche lettera si avvicina molto. Allora riconoscere l'Adonis da quello, con un passaggio bello lungo e tutto quanto, però si somigliano molto, l'avevi regolato molto bene. Sì, si è dato più o meno i parametri che si adeguano, anche perché io sto abbassando un pochino, ecco qua, anche perché io tempo fa usavo l'MC85 e quindi avevo insomma più o meno quella linea lì, però con questo 1908 l'ho sentito da Sandro, è un bel microfono e quindi l'ho comprato per farlo lavorare con la radio Kenwood, anche perché c'ha tre connessioni con i Asian Kenwood, c'ha tre cavi di uscita e quindi adesso ho staccato un cavo Kenwood e praticamente lascio quello di Asian Icom, quindi lo facciamo lavorare con gli altri radio e c'ho Icom e Asian, ce li ho, quindi lo inseriamo in quelle due radio. Va bene, ottimo per la truppa, allora Fabi. L'unica cosa che io non su questa, forse perché l'ho comprata nuova, non c'ho più pazienza, non del 440 sto parlando, non riesco a sentire la modulazione bella come avevo una volta col 440, quindi mi è sceso un po' dalle palle, ecco. Ma guarda, io sono molto similare, ti dico, però forse lo facciamo con calma quando non c'è una certa, quando non c'è molta gente, ci troviamo su un canale, facciamo un po' di prove. Io credo che questa te ingrossa leggermente, sul 4 e 30 ti ingrossa leggermente la voce, mentre sul 4 e 40 te la rendo un po' più fina, qui più corpo, un po' più di corpo c'hai sulla 440, quindi diciamo di poco potrebbe essere superiore e quindi in effetti diciamo sì sul 430, però è una cosa infinitesimale, ecco. Guarda, non ci credo molto, io adesso ho cambiato, commutato e sono col 440. Poi chiediamo notizie a Sandro, che di lontananza magari se ne accorge di più. Questo è il 440, Sandro, senza nessun problema. Secondo te ti piace più la modulazione del 430 o questa del 440? Mi metto scrupoli a non so se ti deludo con le mie opinioni, perché tutte le opinioni, se benissimo, sono sempre soggettive. Preferisco questa non so perché, sembra più, si cambia le tonalità del microfono, sembra che lo alimenta in modo diverso e quindi lo fa rendere in modo diverso. Minchia, addirittura i microfoni sono uguali, io ho un MC60 per ogni radio, un SM20 per il Nikon, un DM100 per lo IESU e poi l'Adonis che mi fa sia sempre più bassi comprimano meno la popolazione. Riesco a scandire molto bene a orecchio tutte le lettere che tu pronunci. Con la 12 le tonalità basse erano tutte troppo vicine. Con l'MC si confondeva abbastanza, qui invece mi sei più chiaro, la modulazione sembra meno compressa, magari è possibile che sia per il passaggio leggermente più basso. Non so, posso rifare un'altra prova portandovi tutte e due alla stessa potenza. Questi sono una cinquantina di volte modulati, gli altri erano oltre i 100, ma di picco. Questi invece sono 20, 30 watt di portante e 50 modulati. Anche da te, Fabrizio, c'è lo stesso problema. Ma no, io te l'ho già detto anche poco fa. Allora, la differenza non credo che siano i watt. Io ho già riscontrato questa differenza tra il 430 e il 440 da te, perché ce li usi tu, tutti e due. Allora, il 4... Tu hai il problema non è un problema, la tua particolarità è che la voce è molto grossa, come io, se vedi, io me la sento che mi vibra da qua la voce, perché ce l'ho grossa. Tu ce l'hai grossa lo stesso, ma anche potente nello stesso tempo, quindi cosa succede? Che forse ti senti meglio perché col 440 hai una voce bella lineare, forse te la fa anche leggermente più fila e quindi è molto lineare. Su 440 cosa succede? È uguale identica, con la differenza che si gonfia leggermente un puntino sulla parte medio-bassa e quindi rimane un più corposa la voce, per capirci, mentre con la Adonis nel 430 facevi la stessa identica cosa ma esagerata e quindi era proprio troppo grossa, questa voce è troppo corposa, e capisci la differenza? Cioè tu immaginati la tua voce uguale, con 430 rimane un po' più corposa perché si gonfia sulla parte bassa, rimane leggermente più gonfia. Claudio, sei un omaccione, ti gonfi nella parte più bassa. Che puttana, la fine ti scivo fino alla balla. Fabri, minchia, mi stai facendo spaventare. Se mi si gonfia la parte più bassa che ho, vabbè, potrebbe essere il dito dal piede. Ehi, non ti spaventare per quello, spaventati se non ti si gonfia. Anche quello è un problema. L'abbiamo scartato perché è troppo alto, quindi abbiamo una tonalità troppo forte, troppo acuta, quindi non potendo regolare altro dell'equalizzazione è inutile usarlo col 430. Rimane il fatto che qua abbiamo due MC60, uno col 430 e uno col 440, quindi io adesso sto usando il 440, commuto l'antenna di nuovo sul 430 e vediamo se c'è questa particolarità, se possiamo dare un pelino magari meno di Mickey Gain sul 430 per arrivare ad una modulazione simile a questa. Vai, commuta, ma non è un problema Mickey Gain, è un problema di particolarità di quella radio, capito? Quindi ogni radio ha la sua parte, come due belle donne, no? Una è particolare, l'altra uguale, ma sono tutte e due belle, così guarda, adesso prova con 430. Ecco, questo è il 430, la portante purtroppo è uguale, 30 watt, però il picco di modulazione qua è sugli 80 watt, 80-90 watt. Quindi siamo al doppio, come ti ho detto prima. Anche questo è regolato così, mentre là invece avevamo da 30 a 50, qua abbiamo da 30 a 70-80. E la modulazione com'è questa? Guarda, te lo dirà anche Conan, ma è proprio così come ti ho detto io, questa si rimane più corposa e si gonfia un po' tutto di più. E quindi quella invece rimane un po' più fina, perché poi come amplificazione siamo lì. Avanti, Conan. Sì, confermo. È una cosa particolarissima. Per esempio, con l'altra vedo che avevi meno watt, però avevi un segnale fisso di 7 saliti. questo è un segnale fisso, più basso e sali uguale. Però mi hai detto che c'è più basso. Mi sembra di sì, sono allora 10, 20, 30. No, sono uguali, sto guardando il traverso, sono uguali. Anche qua abbiamo un picco di modulazione leggermente più alto, intorno ai 60 watt, ma siamo lì, dai, anche l'altro è intorno ai 50-60 watt, siamo lì come potenza, dai. Allora, vediamo un po', adesso pazienza, io un attimo prima di tutto, vediamo che apparato, comunque va bene, ascolta la voce grossa c'hai, il microfono spinge. c'è questa roba qua, c'è sempre stato di spingere il massimo del radio, eccetera, eccetera, poi la M è normale, no? E quindi così, vabbè, va bene, poi in 27, quando sei qua usi questo microfono, ma ti ho sentito anche con altri microfoni, va bene, devi uscire un po' amplificato, dai. Se uso microfoni normali come il W4, il TNP3, eccetera, io ho sempre modulazioni molto alte, molto molto alte, ma anche in FM, usando le apparecchiature VHF, VHF, che vado con le SM20, mi dicono sempre la stessa cosa. La tua modulazione è inconfondibile, il tuo stralcio di voce è sempre quello che va a sfasciare gli orecchi, ecco, sempre così, ma modulo io da una vita a 50 centimetri dall'MC60, ci parlo molto piano, proprio perché so che un microfono particolare e che quindi deve avere una sua timbrica chiara e pulita, perché se ti metti a gridare a fare ci parli sopra, è chiaro che va a modulare uno schifo, ecco, tutto qua. Va bene, beh, almeno ci abbiamo tolto un po' il dubbio tutti. Quindi tornando a te, Fabri, secondo te che cos'è quel problema che hai in FM? Sì, proprio andarci in giro, il discriminatore, no? Se tutto il resto va bene, allora, va bene in FM, va bene in SSB, in LSB, in USB, va bene tutte le tante, cosa può essere il discriminatore, non c'è per esclusione, perché poi è il discriminatore che è disaccoppiato, dobbiamo vedere se sono disaccoppiato da lineare, vedere un po' cosa sta succedendo, vedere il segnale in entrata e in uscita del discriminatore e capire cosa sta succedendo, quindi per quello non è un grosso problema, anche perché la verità in FM non usi, quindi se fosse solo quello il problema non avrei nemmeno messo mano, cosa me ne frega, però ti ripeto, non ne sono sempre sicuro, però ho l'impressione che il mio in ricezione faccia un po' troppo casino, che poi si porti lì sopra un po' troppo rumore, capito? Però io noto che mi arrivano tutti i segnali forti, non vorrei che qui sia stata a suo tempo fatta una modifica per aumentare la sensibilità e quindi devi usare un certo tipo di sistema, devo provare, infatti volevo aprirlo lì per vedere se non è stata fatta quella modifica, adesso io non me ne ricordo più, per aumentare la sensibilità, quindi anche quella da controllare. Ma la prima cosa che farò è quello, faccio un bel allineamento, adesso come c'è vario disponibile, un dopo cena me ne vado lì, mi faccio un bel allineamento e vediamo se c'è problema, gli buttiamo dentro un segnale e lo seguiamo, finché deve uscire così in altoparlante, se ci sono problemi lo segui ogni stadio dove passa e vedi cosa sta succedendo, quindi lo dovremo trovare il problema, se c'è il problema, mentre in FM c'è un problema, adesso l'ho riscontrato, l'avevo già riscontrato, ma non ero sicuro, perché ho sempre visto segnali fortissimi qua da gente di Sassari, quindi adesso l'ho riscontrato che in ricezione e in trasmissione, e quindi ecco deve essere il discriminatore, cioè non deve, è il discriminatore, capire cosa sta succedendo, se c'è qualche cosa in dispersione oppure solo perché va allineato. Sicuramente allora il problema è quello. Va bene, d'accordo. Dai signori, io domani non so se tu sei a riposo. Vabbè, ma domani io alle 6:30 devo essere in terra, perché sono anche solo, voglio iniziare a lavorare molto presto, così prima finisco, prima me ne rientro. Caparoggio, dai. Perfetto Claudio, mi hai fregato un po' sul tempo perché in effetti anch'io ho visto l'ora delle streghe e stavo valutando un attimino la ritirata. Ne approfitto allora comunque per te, 73-51, è stato un piacere, fare le prove, ci sono quei momenti in effetti sì, a me piace spaziare apparato 1, apparato 2, microfono 1, microfono 2, confermare, definire qual è la situazione migliore e poi come dici tu invece ci si blocca, l'aggancio è quello ed è perfetto. 144, buona giornata per domani e buon lavoro, vai per te Fabrizio. Ok, dai, io ricordo i saluti, 73-51 circolari, Claudio Conade Grode se sta ascoltando da tutti gli ascoltoni, niente, sono d'accordo con te, diciamo però che queste prove viene bene a farle così in tre persone e soprattutto con una persona a distanza, è una certa ora, tranquilli, uno rilancia, l'altro fa e si fanno un'oretta e mezzo d'addio tranquillamente e senza problemi, è anche un divertimento e via. Va bene, dai, anch'io adesso spengo, perché come Claudio sa, adesso mi mangio un po' di gelato, mi devo stordire sul divano e poi me ne vado a letto, che anch'io domani mattina non lavoro, ma mi devo alzare presto per portare i bambini a scuola, quindi anche io alle 7 e mezzo mi devo alzare. E va bene, buonanotte a tutti. Mi è piaciuta l'idea del gelato, è interessante, sarebbe da replicare, però con mia moglie mi grida, quindi niente, bruciata. Dai, saluto le Fabrizio, buonanotte, 73-51 anche a te, Antonio Grode, eventualmente è stato nominato per possibilità di quel rischio. Salutone a tutti, lascio la parola accesa per un'altra decina di minuti per ascoltarmi un po' di QRM e rilassarmi la mente. Il rumore di Anto fa sempre bene prima di andare a dormire. Di nuovo, ciao per Rick, salutoni. Notte. Ciao, notte a tutti e due domani, ciao. Riprendo io, vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto. Buon QRT e buon 144 a tutti e tre, da questa parte Antonio Grotte che vi ringrazia e vi super cordializza. Buonanotte. Buonanotte a domani. La buonanotte. Ciao, buonanotte Grotte, a domani. Comandami. Lei cosa raccomandi? Non so adesso come vai a sortirti sul divano. Ma adesso io cosa faccio? C'ho quel computer acceso, no, il computer non lo riapro, se no lo lascio chiuso, anzi stacco la presa così si serve in stand by da solo. E niente, mi voglio, perché sono le 10:30, venivo voglia, però ero sempre attaccato a questo microfono, adesso mi prende il microfono da leccare, anche qualcuno ha pensato qualcosa di strano, ma è dolce. Quindi 10 minuti mangio un gelato e poi mi butto sul divano, già lo sai, e mi devo addormentare sul divano prima di andare a letto. Purtroppo sono vizioso. Vero, Giovanni. Buon 144 anche a te e anche a Sandro Conan, non so se riesci a copiarmi comunque. Ben sentite, a risentirci alle prossime. Ciao. Ciao.